Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Ma ciao a tutti carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti qui su www.runtimeradio.it, la web radio geek che vi fa sempre compagnia con 12 ore di live la settimana e il giovedì sera, come questa sera, con Quando eravamo futuro, che è la trasmissione nella quale ci ricordiamo di quando eravamo futuro. Carlo Sant'Agostino. Eccomi, sono qua col fiatone, scusate. Trapelato. Ma ce l'ho fatta, sono arrivato. No, l'unica cosa che non si può dire che sei trapelato, tu sei solo trapelato. Quindi sì. I capelli ce l'hai. È uno dei pochi che ce l'ha ancora. Davide Gatti. Buonasera, con pochi capelli, ma come diceva qualcuno, con una grande idea in testa, qualcosa del genere, eh? Cesare Ragazzi. Diceva. Grande Cesare Ragazzi. Ho la grande idea in testa. Testa, sì. Ma vabbè, non mi fa rispondere. Perché. E però invece uno che ce l'ha pure lui, i capelli, più o meno, cioè Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti, buonasera. Sì, ce li ho ancora. Non per molto, però ancora ci sono. No, oramai ce li hai. Sai che i capelli si perdono dai 20 ai 30 anni. Se a 30 anni, 35 diciamo, non li hai persi, non li perdi più. Quindi questa è una cosa importante. Insomma, se lo dici tu, Simone. È specialista tricologico. È una statistica. Tu hai visto mai una persona che perde i capelli a 60 anni? No, cioè. A meno che 60 no, però a meno che non è un mio amico che li ha persi a 40 e passa. Vabbè, ma insomma, magari ha avuto dosi di radiazioni perché stava sempre davanti al fosforo verde, però non ci vedeva e quindi stava appoggiato di fronte, praticamente con la fronte appoggiata sul fosforo verde, e lì insomma giustamente la natura poi ha fatto il suo corso, anzi più che la natura, diciamo l'antinatura, tutto quello che ne viene seguito. Torniamo dunque, io tanto vi saluto, sono Simone Pizzi, seguiteci nelle nostre ovviamente nella nostra chat diretta Runtime su Telegram, dove potete ovviamente interagire con noi, seguite anche i nostri social, ragazzi, perché abbiamo i social, noi abbiamo sia l'Instagram, cercate Runtime Radio, sia Facebook, che tanto ormai non ci va più nessuno, neanche noi, poi è quella la cosa bella. E soprattutto, insomma, bentornati a questa seconda parte della puntata del... Se intanto qualcuno nella chat di Skype mi restituisce il link del documento, non sono provvisto, ammetto di non essere provvisto, insomma. E torniamo appunto, dicevo, con la seconda parte di questa puntata sulla scuola, che sembrava una puntata semplice, però poi alla fine, mentre che si dipanavano i ricordi, le situazioni, siamo resi conto che a un certo punto non gliel'avremmo fatta, insomma, a finire tutto quanto quello che volevamo dire, anche se poi alla fine, ma volevamo veramente dire qualcosa? Non lo so, intanto spingo pulsanti a caso, ecco, ho risolto tutti i problemi, eccomi qua. E Davide, vogliamo riprendere le redini della situazione, tanto che io apro il documento Google. Sì, allora noi stavamo seguendo, dopo un inizio un po' generale, abbiamo fatto poi stavamo cominciando un po' a entrare sul vivo alle medie, me, stavamo alle medie, sì. Stavamo entrando alle medie, stavamo entrando già nel vivo di quando cominciavamo a, a capire qualcosa, perché alle elementari non capivamo una madonna, andavamo e basta, si giocava, non si sapeva che si faceva. Alle medie cominciavamo a capire e poi pian piano si va avanti nel tempo e scopriremo un po' di cose, come sono cambiate le cose, come cosa si faceva quando eravamo alle superiori. Che poi le medie le abbiamo appena abbozzate, perché abbiamo parlato prevalentemente dei professori, dei bravi professori, dei pessimi professori, insomma, io ho anche insultato pesantemente, avrebbe potuto arrivarmi una lettera, ma io penso che sia morta. Speriamo, esatto. per lei più che altro, non mi capirà. Arriva dagli eredi. Guarda, non penso, erano troppo stupidi, però vabbè, non proseguiamo in questa. No, tranquilla. Una dietro l'altra. Io un giorno vi racconterò, ma in un'altra trasmissione, io e il mio carissimo avvocato Alessandro Di Maggio, che dentro i tribunali ne facevamo di ogni, tipo Alberto Sordi, tipo sor giudice, ora ci sta sto povero Cristo, vabbè, storie bellissime che poi sono finite sempre male, però devo dire, il mio avvocato mi ha sempre levato le castagne dal sedere, come ho imparato a dire dall'ultimo raduno di Runtime. Quindi eri un birichino, insomma, va bene. Ero uno che diceva le cose, non so se si è mai capito. Lo so che sei rimasto uno che dice le cose, non dice è che le cose, esatto. Ma perché poi con la saggezza la vita ti insegna le cose, no? In realtà poi non vale per tutti questa regola. E una cosa che invece valeva per tutti erano le note. Direi proprio sì. le note, diciamo che alle elementari non si usavano le note, cioè si ti rimproveravano, ti mettevano il castigo. Invece alle medie hanno cominciato a subentrare questi elementi, che sono le note, che sono praticamente c'erano due tipi di note. C'era la nota di classe, la nota personale sul registro e la nota sul diario, che non erano necessariamente connesse una con l'altra, perché a secondo della gravità l'insegnante metteva la nota sul registro, ma se proprio ti voleva bastonare ti prendeva il diario e scriveva la nota, che io a volte c'erano tipo due pagine. Però ce n'erano due varianti, la nota sul diario e la nota sul diario che doveva venire il genitore a scuola. Sì, perché sì, quella era la convocazione lì proprio. Era la morte. Esatto. Perché in teoria la nota doveva essere portata il giorno dopo all'insessa insegnante, firmata dai genitori, no? O dal genitore, da un genitore. E questa volta io vedevo, a volte la mia professoressa si sfogava, perché scriveva proprio la Divina Commedia, capito, su sto diario, lo vergava con rabbia e disprezzo. e poi faceva: fallo firmare a tua madre. Suo figlio ha ucciso un ranocchio davanti alla compagna, o gli ha fatto vedere, gli ha ciucciato le tette della Barbie. Si è comportato male. Ecco, no, invece mi ricordo che quelle notte mia mamma diceva, a un certo punto, quando parlava con le sue amiche, fa: io vado più a scuola di mio figlio, sono sempre a scuola. Veniva chiamata spesso, devo dire. Quindi erano note pesanti. Quindi tu avevi questo rapporto con le note, ma perché, che facevi? Guarda, mi ricordo, una delle note interessanti era: suo figlio porta dei fili elettrici e della roba elettrica in classe. Ecco, vabbè, quindi era sempre lì, insomma, stavi sempre a tutti. Facevi Sarvi Valaking già all'epoca. Esatto. No, la fili elettrica alle compagne. No, alla professoressa direttamente. La professoressa comprendeva, vedeva una batteria con una lampadina o un motorino, pensava fosse qualcosa di pericoloso. Aveva ragione, potenzialmente. Anche se io mi ricordo che alle medie si faceva una cosa che non so se si fa ancora, educazione tecnica, ve lo ricordate? Applicazioni tecniche. Sì, educazione tecnica. Che alla fine, poi alla fine c'è anche il momento in cui ti fanno fare il primo circuitino elettrico, cioè tutte cazzatine, però erano interessanti tutto sommato. Sì, comunque io portavo della roba sotto al banco e poi non facevo mai una madonna, cioè, non disturbavo, però insomma facevo i fatti miei, non seguivo molto, ecco. Sentiamo Tomaiuolo, che era più birichino, che cosa gli succedeva. No, guarda, io ho ricevuto poche, sinceramente. Poi io fino a metà delle medie ero anche abbastanza bravo, diciamo, perché fino a un certo punto non serviva tanto studiare, Poi ho avuto una specie, da allora praticamente, e non è mai smesso, una specie di cosa che ho sempre studiato praticamente la notte prima di qualunque cosa. Come mio figlio. Più adesso. O meno sono riuscito ad arrabattarmi dappertutto, medie, superiori e università, in questo modo assolutamente sbagliato. Sai, tipo film americani, avete presente? Quando uno, il tizio non fa niente per tutto il periodo, poi alla fine si trova negli ultimi 20 minuti che deve riempirsi di caffè, di cose e cercare di studiare. Sì. Beh, ti davo un po' più birichino, effettivamente. Allora, tanto in chat, tanto in chat salutiamo Walter, Michela, Pier G, che insomma già iniziano con la discussione. No, io devo dire che se penso a Tomaiuolo lo penso un po' paraculo, cioè uno di quelli che sta lì però non si fa beccare, cioè quello beh, quello che ha detto lui prima, non è che... Ah, ok, no, scusa, io stavo a leggere non la chat. Non faccio beccare, ma anche... Ma ti ripeto, anche... Io all'elementare ero un secchione, nel senso che studiavo un casino, poi non so cosa sarà stato Davide con i suoi fili elettrici, qualcosa, all'improvviso ho smesso e praticamente recuperavo tutto, ma davvero a volte mentre andavo a scuola, nel tram mi leggevo qualcosa, cercavo di imparare la memoria più o meno e me la sono sempre cavata. Vabbè, così. Questo sì, questo capitava, a un certo punto è capitato un po' a tutti che si studiavano gli ultimi 10 minuti e io poi con un amico mio in particolare si ammazzavamo dalle risate perché... Cioè, giustamente se vediamo per studiare poi facciamo la qualsiasi, insomma. E io invece devo dire la verità che io a scuola, per esempio, e poi a San Carlo, andavo bene. Cioè, io comunque complessivamente a scuola non sono mai andato male in generale, e soprattutto sulle materie umanistiche. Per me c'era una cosa che era una cosa proprio che non veramente era la matematica. Per me la matematica era una cosa che non stava né in cielo né in terra. Però prevalentemente nelle materie umanistiche, quindi comunque storia, italiano, anche poi ovviamente alle superiori, pure filosofia, psicologia e via dicendo. Insomma, alla fine erano tutte materie che bene o male le studiavo, ma anche geografia, comunque magari non mi ricordavo perché c'avevo questo problema strettamente mnemonico, però concettualmente imparavo velocemente. Quindi, però la matematica invece, la matematica era una cosa di applicazione, quindi per me non mi entrava proprio in testa. Comunque, Carlo, tu invece le pigliavi, no? Okay, tu andavi prima, al bunker, mi pare, no? Cioè... No, sì, a parte quello che adesso non racconto, però volevo segnalare quello che dice Michela, tua moglie, sul gruppo, che ha detto una cosa che anche per me sarebbe stato un incubo se fosse capitata a me. Ha detto che la sua prof di tecnica era cattivissima e se l'è ritrovata cliente in agenzia. Ma sì, sì, cioè, sì. Incubo. Vabbè. Se io mi fossi ritrovato cliente nelle mie aziende, la mia prof di latino, sarei morto. Veramente un incubo. La mia prof di latino era tremenda, era una cosa allucinogena. Comunque, io riguardo alle note, ho avuto comunque un rapporto strano perché. Proprio perché, come hai accennato l'altra volta, io le medie e le superiori le ho fatte nel collegio San Celso di Milano, che era una specie di lager nazista, e quindi era quasi impossibile essere, diciamo, non inquadrati tra virgolette, perché venivi eliminato fisicamente quasi. Bello, bello, bella scuola che esatto. Infatti credo che la cosa peggiore che sia capitata in 3 anni di media, in 5 anni di liceo, è stato uno dal Rigo, me lo ricordo adesso, che durante l'ora di religione tipo ha incendiato un quaderno in classe. E me lo ricordo benissimo perché lui era in fondo alla classe, ha acceso questo focherello con i fogli di carta e il prof di religione ha detto: Chi è che ha acceso il fuoco? È lui. Miracolo! Stavo sconfisciati per 7 ore da ridere. Vabbè, comunque. Nota ovviamente, sul registro, class, chiamati i genitori, bla bla. Vabbè, bla, sì, bla. Voi, guarda, voi lapidato immensa. Io ho preso pochissime note, l'unica nota che mi ricordo di aver preso è perché una volta avevo preso credo fosse scienze, un brutto voto, e all'epoca non c'era registro elettronico, infatti bisognava portarlo a casa, farlo firmare, oh, e riportare, sì, infatti, il compito col voto. Ma no? Su questo, guarda, era un grande vantaggio perché se potevano falsificare firme, sai, potevi fare tutta una serie di cose, bello, però lì all'epoca io mi ricordo che non era un brutto voto e non volevo farlo vedere ai miei, allora avevo nascosto questo compito in tasca, stropicciandolo tutto dentro nella tasca dei, del giubbino. E il giorno dopo, quando me l'ha chiesto la prof, l'ho tirato fuori praticamente che era tutto un foglio di carta stropicciato e rispalmato, insomma. E mi diede la nota dicendo: oh, devo parlare con i tuoi genitori, bla bla bla, non si hai, fa così. Hai peggiorato la situazione, insomma. Esatto, insomma. Guarda, questo è l'unica nota che mi ricordo bene di aver preso, poi sicuramente avrò prese altre ma non me le ricordo. No, io oggettivamente non mi ricordo le specifiche note, però mi ricordo, insomma, note prese veramente dalla tutta la classe, da singoli personaggi, sai. Poi, cioè, io andavo a scuola in un istituto scolastico che era nel crocevia tra Casilino, Appio Scolano e San Giovanni, che per chi conosce Roma, stiamo parlando di un quartiere borghese e due, come frontiere del Far West praticamente. E quindi dentro questa scuola c'era un po' di tutto dentro, e mi faceva ridere che durante la lezione di inglese c'era questa professoressa un po' ciecata, abbondantemente ciecata, che si girava dall'altra parte per scrivere sulla lavagna, e c'erano quelli giù in fondo, due ragazzi in particolare, che si facevano le canne. E questi si facevano le canne fino a che a un certo punto la professoressa, ancora non girandosi, faceva, cominciava a annusare perché sentiva la puzza di fumo. E questa, quando prima del girasse, tanto lei non è che da lontano l'avrebbe visti, prendevano sta canna e la buttavano sotto al banco del primo che capitava, tipo quello che stava sulla sinistra. E quindi praticamente questa, quando cominciava ad andare verso l'interno della classe per capire dove veniva sta puzza di fumo, se vedeva sotto il banco di uno tutto il fumo che usciva, ma quello non c'entrava niente, capito? Era bellissima. E se beccavano sospensioni, ovviamente, no? La nota, ma non sono, no, io, ma anche sospensioni, sì vai a dire, no, dopo. Allora, c'è pure una legge non scritta dell'infame, tu poi non puoi fare l'infame e dire che è stato lui, perché quello poi dopo fuori da scuola ha detto corca pure, capito? Cioè, nel senso, era un po'. Sì, però pure se me incastri a me e non ti autodenunci, vabbè, non dico niente alla prof, però poi pigli una mazza e te la rompo in testa. Lo so, bisognava, lì era un po' la legge del più forte, del diciamo più così, forte. Insomma, quindi bisogna vedere se avevi le connotazioni fisiche per poter affrontare. Io uno lo buttai. A uno l'ho buttato in un cassonetto dell'immondizia. Madonna, che puzza, poraggio. Eri un bullo, allora eri. No, ecco, mi rompeva le palle. Ecco perché voleva mettere il cassonetto differenziato. Io ero tranquillissimo. Finché un giorno ero con due amici. Questo continuava a rompermi le palle. Stavamo andando a mangiare, non mi ricordo. L'ho fisicamente preso, sollevato e lanciato in un cassonetto. Da allora non si è più rotto fatto le palle, immagino. Abbastanza. Beh, comunque da noi i rissoni proprio dentro la scuola, quindi, cioè, nel senso, le piavamo, le davamo, a volte scappavi, a volte te beccavano. E poi c'era alle medie. Sì, alle medie, a Roma era un periodo caldo quello in generale. Poi dopo alle superiori entra proprio la connotazione politica, no? Però prima della connotazione politica c'era comunque questa, diciamo, intemperanza da parte di questi tre quartieri che si incrociavano odiandosi uno con l'altro, quindi c'era proprio sta cosa bellissima. E succedevano queste bellissime cose. Quindi alle superiori coltellate, insomma. Ma, no, coltellate no, mai viste coltellate, però le botte volentieri, insomma. Un po' di botte non se ne cavano mai a nessuno. Poi un po' le piavi, un po' le davi, a seconda del mucchio dove stavi, insomma, cioè, dipende sempre da come stavi messo. Per esempio, il secchione era uno che le piava sempre. Io mi ricordo, io c'avevo questo, io faccio nomi e cognomi, cioè Ettore del Buono, no? Che già soltanto il nome, ti chiami Ettore del Buono, cioè sei già bullizzato da solo, capito? E a questo poraccio gli facevano di tutto, a parte che era proprio il classico secchione con gli occhiali spessi, quattro dita, uguale, con i capelli corti. Mi ricordo che c'avevi i vestiti che puzzavano di naftalina. Ma c'aveva due genitori molto anziani, quindi poretto, insomma, non è manco colpa sua. E che questo praticamente, a parte i pizzi, sganassoni, schicchere su orecchie, il dentifricio sui capelli, cioè se io ci penso oggi è stata una brutalità che mi sento anche in colpa, onestamente. Però allora te faceva ride, cioè nel senso, ma te faceva ride perché non toccava a te, cioè quindi esatto. Anche beh, ma ce n'è, da me la secchiona era una femmina bruttissima, una femmina, senti, femmina, non donna, femmina, femmina bruttissima, femmina. Figlia di una professoressa, davvero. Anche, no, che si tagliava i peli con la forbice durante le lezioni, delle cose inenarrabili di una, e questo è sicuramente, c'era il secchione, però c'erano anche gli sfigati, che erano quelli che veramente venivano bullizzati, a volte anche in maniera, beh, di solito le cose coincidevano, no, tra sfigato e il secchione. A volte non è detto. Non sempre. Non sempre. Infatti, cioè, ho detto almeno, a Milano era almeno la mia esperienza era così, che non, c'erano gli sfigati e c'erano i secchioni, ma non è detto che coincidessero, anzi a volte proprio non coincidevano tra le due entità. Io mi ricordo, però, se devo dire, il secchione della mia classe, che si chiamava Diliberto, questo me lo ricordo, che era quello che aveva tutti i 10, tutti ottimo, sempre bravissimo e tutto quanto. E nella quando lo consideravamo tutti il genio, no? Veramente un genio, tutti 10, chissà cosa farà questo qua, eccetera. Anni dopo, quando mi sono ritrovato con un mio compagno del liceo, Stefano Re, che lui era più in contatto con questo Diliberto, mi fa: oh, ma sai che fine ha fatto Diliberto? Io: no, è in prigione. Praticamente questo qua cosa aveva fatto? Dopo la scuola, dopo il liceo, aveva fatto economia e commercio, era diventato uno che come lavoro faceva investimenti in borsa e si occupava di investire i portafogli degli investitori, faceva, come si chiamano quelli che gestiscono il portafoglio, adesso non mi viene il nome tecnico, in pratica la gente che ha i soldi glieli dà perché lui poi li investa in maniera migliore, okay, con, sì, azioni, sì, è chiaro, ieri del concetto. E praticamente questo aveva messo su tutto un sistema che praticamente i soldi che loro gli davano lui in realtà li spendeva. Lo schema Ponzi, bravissimo, quella roba lì, e aveva creato tutto questo schema Ponzi che a un certo punto, quando la gente ha iniziato a richiedergli i soldi, è crollato tutto e è stato denunciato, aveva rubato un sacco di soldi, un sacco di gente, è finito proprio dietro le sbarre. Quindi mai mi sarei aspettato che il secchione della classe finisse così, insomma. Non so se voi avete saputo poi che fine hanno fatto i secchioni che conoscevate. Allora, quello mio di cui ho pubblicato la foto, che è esattamente quello che ha detto. Vabbè, magari vediamo, di mettere pure le foto. Occhialoni spessi. C'è proprio lui, se tu guardate, c'è la foto di classe, è l'unico con gli occhiali spessi, proprio la faccia da secchione, è lui, di fianco a me, tra l'altro. Vabbè, intanto Piergini in chat ci sta raccontando delle storie terribili, tipo, vabbè, che all'ora di tecnica a un certo punto era consentito portare i taglierini per tagliare dei cartoncini, poi uno si è squarciato una mano e quindi niente più taglierini. E che c'aveva una professoressa incinta che aveva problemi a deglutire, c'era sta pezza sotto la cattedra, ogni tanto ci sputava dentro. Scusate, però questo è un racconto che potevi tranquillamente tenere per te, insomma, diciamo così. Però vabbè, comunque, per chiudere il mio secchione, che lì era veramente secchione, tutti 10, era il cocco del professore. Successivamente, diciamo, dalle superiori in poi è diventato tutt'altro, cioè è diventato un punk, andava in giro proprio con la cresta e viveva a Leoncavallo, cioè è andato trasferito a Leoncavallo direttamente. Grande, dietro casa mia. Era un cantante punk, era sempre al Virus, che è il posto che c'era a Leoncavallo, dove suonavano e facevano i concerti. Il Virus non era Leoncavallo, erano due cose diverse. Allora no, mi ricordavo male, mi ricordavo così, però in realtà io non sono mai stato. Guarda, io penso che faremo anche uno spin-off molto breve, magari una volta, se vogliamo fare un extra così, sulla scena delle medie, cioè, perché comunque abbiamo, cioè, lui giustamente, Carlo, diceva: voi sapete che fine hanno fatto? Allora, il secchione che dicevo io prima è diventato un pazzo, cioè, ma un pazzo, cioè, questo è tipo un ingegnere di altissimo livello, ovviamente. però cioè tipo che lui dice che ha le risposte per tutto il mondo, ha le risposte per risolvere i problemi di tutto il mondo, che dovrebbero soltanto dare il potere a lui e lui in sei mesi risolverebbe i problemi del mondo, ma lo diceva proprio sì, assolutamente. Ma guardate che la scuola te fa diventare questo ed altro. Però io mi ricordo insomma quando facemmo la prima cena delle medie che no, ci rido perché fa ride perché sembra un film di Verdone, però cioè uno era morto e vabbè, poletto, cioè, un altro era, cioè, che era un personaggio divertentissimo, una persona brillante, era diventato un drogato, aveva avuto un incidente con la moto, tutto sdrenato, mezzo zoppo, era venuto con una che lo teneva in piedi, cioè raga, una cosa terribile. Rivedere delle persone dopo tanti anni, e ovviamente tra quell'epoca e poi e quell'incontro c'era la vita in mezzo, no? Giustamente. E la vita non sempre, insomma, te dà le carezze. Questo purtroppo è un dato di fatto. E insomma, sarebbe figo fare una puntata con magari su questa cosa qui. Vabbè, comunque i secchioni. Tu, Carlo? Quindi i secchioni che conosciamo sono finiti tutti male alla fine. Ha avuto questo periodo, poi dopo si è rimesso a posto, si è laureato, è andato in ritardissimo a scuola, si è laureato e poi è andato a fare il commercialista. Quindi in qualche modo ha avuto questo momento, perché probabilmente tutti l'hanno bullizzato da secchione, che a un certo punto si è detto vaffanculo, divento punk, mi rompo il cazzo a tutti, e poi dopo ha rimesso un po' la testa a posto. Beh no, però la parte punk della vita deve essere stata la più divertente comunque, chiaramente. Giustamente Piergi ci dice che lui poi quando aveva capito un po' come funzionava, perché a scuola aveva conosciuto quelle che erano le varie estrazioni sociali, no? Quindi le varie differenze che si capivano da come si vestiva la gente, aveva chiesto di comprare dei vestiti a Energy era un negozio a Roma, a via del era, perché non credo esista ancora, forse esiste ancora, non lo so, comunque questo negozio proprio al centro di Roma, a via del Corso, che vendeva abbigliamento per i ragazzi, per i teenager, quindi ovviamente era una sorta di mecca dove c'era sta migrazione de squins che andavano lì insomma a comprarsi jeans ed Energy. E giustamente Michela ricorda che all'epoca, quindi negli anni 80 in particolare, ma questa cosa poi è sopravvissuta anche negli anni 90, e addirittura quest'anno, anzi l'altro anno, ho saputo che c'era una persona che noi conosciamo che ancora pensa che sia vera questa cosa. Quindi pensate alle leggende metropolitane come riescono a sopravvivere. E si narrava che praticamente dentro questo negozio sparivano le ragazze bionde cioè, che entravano nei camerini e le rapivano dai camerini e le vendevano agli arabi perché volevano le ragazze bionde. Voi pensate che cozzaglia dei luoghi comuni imbecilli, e che tipo, ma veramente 2 anni fa mio no, stavamo, cugino. Non ve lo ricordate quella cosa, leggenda metropolitana, che rapivano a tratta delle bianche da Energy? E questa mi guarda, ma guarda che era vero. E io sono rimasto, cioè, non sapevo che dire, capito? Cioè, sono rimasto troppo imbarazzato. Però vabbè, sì, dai. Sì, è vero. È come quando dicevi, ma vi ricordate quella leggenda metropolitana che in discoteca ti drogavano, che poi ti rubavano il rene? Ma no, guarda che è successo veramente. Certo. Sì, come no, certo. Ti ritrovavi in un fosso senza un rene. E anche nel camerino dell'Energy, quello dove non rapivano le bianche, c'erano i coccodrilli che uscivano da dietro. Esatto, i coccodrilli bianchi. Oh, salutiamo cose. Claudio adesso, che è entrato in chat. Adesso i cinghiali, naturalmente. Salutiamo. Salutiamo Claudio che è entrato proprio in chat, quindi nuovo ascoltatore. Lo salutiamo. Ciao. Vabbè, quindi dovevamo rimanere, mi sono perso. A secchione adesso c'è il preferito del professore, che però è la stessa. Ma Claudio cosa è Parmigiani, ma sarà Parmigiani, il mio amico ascoltatore che ci ascolta sempre. Non lo so, adesso io. No, Claudio Ramini, è un mio collega di lavoro. Tu dici, c'è scritto solo Claudio. Comunque, sì, che in effetti il preferito dei professori spesso era il secchione, ma non necessariamente, perché a volte la simpatia dei professori era alchemica, cioè era chimica più che altro, cioè nel senso si basava su fattori imponderabili, perché io veramente c'era una ragazza in classe nostra, Alessia Giannelli, ciao, ti saluto Alessia Giannelli, Io da proprio stasera voglio andare in galera, ma frega un cazzo. Che praticamente questa era un po' stupida, poverina, cioè non era colpa sua, cioè non studiava, era stupida, quindi come tante stupide. Eppure c'era la professoressa italiana che ci stravedeva, cioè la interrogava, questa diceva le cazzate, lei la correggeva e poi gli metteva 6, 7. C'era una cosa che non potevo sopportare, io proprio mi mandava i matti, e quindi io protestavo e mi metteva le note, ovviamente, vedi, perché poi insomma, cioè, tutto ritorna. Certo. Certo. tu non capisci ti diceva, voi questa situazione non riesci a comprenderla. Ma io come preferito, allora io avevo, devo dire che le medie comunque giusto per, a parte io che ero una capra e il secchione, tutto quello che vuoi, in realtà ho avuto una scuola media molto particolare, io credo abbastanza diversa dal solito. Io avevo degli insegnanti molto giovani, la professoressa di italiano, di cui ricordo il nome ma con affetto, che è Marina Cedrangolo, mi ricordo pure il nome e cognome, e Nadia Boretti, quella di inglese. Erano due donne proprio che volevano fare la scuola a modo loro, qui non c'era il piano formativo. Lei ci parlava come se fossimo a suo livello, ci parlava proprio da, neanche da mamma, proprio da ragazza giovane che parlava con noi, con lo slang nostro anche. Era molto coinvolgente, sono stati 3 anni di scuola molto, molto belli, e tutto sommato devo dire che non c'era proprio il preferito, eravamo tutti abbastanza preferiti e lei trovava in ognuno di noi il suo potenziale, cercava sempre di stimolarlo. È stato veramente uno dei casi di insegnanti come si deve, cioè che stavano facendo veramente il loro lavoro con molta passione. E nonostante io sia stata una capra, mi hanno sempre detto che eri una capra, ma sapevo che saresti diventato qualcuno quando ne ho rivista dopo 20 anni, no? Che poi ci siamo rivisti quando tu parlavi delle cene, delle medie, l'abbiamo fatta, ma 20 anni dopo ci siamo visti da sì, adulti. Sì, beh, certo, è chiaro, io quello dicevo, infatti. E lei ha detto: io sapevo che tu non eri un pirla, tra virgolette, no? Un coglione come sembravi, però ho fatto fatica a fartelo capire all'epoca, però fa niente, insomma, è andata bene. Io sai no, che mi ricordo, stata... mi ricordo, scusa, ti interrompo perché sennò mi è venuto in mente, poi me la dimentico. Mi ricordo un discorso che ci fece, noi eravamo la sezione alle medie, no? Mi ricordo che entrò una volta la professoressa di storia, ma a metà dell'anno, e ci disse: ragazzi, io vi devo dire una cosa, noi vi promuoveremo tutti perché vi dovete levare dai coglioni. Mi ricordo proprio che disse questa cosa qua. E disse che quando vi sarete levati dai coglioni, noi saremo felici, ma ci sarà un vuoto dentro sta scuola. Voi immaginate che cazzo di classe poteva essere? Cioè, io ti dico solo che... Madonna, cosa eravate? Non lo so. Questa era molto entusiasta del suo lavoro. No, vabbè, ma c'aveva ragione. Io, dal suo punto di vista, la comprendevo. Io provavo molto empatia a volte quando vedevo la disperazione dei professori, perché a volte c'erano delle situazioni dove ma neanche manco te la mettevano più a nota, perché te la mettevano a fare, cioè... Ma sì, ma poi adesso facendo un parallelo veloce, adesso nelle scuole medie se metti una nota rischi che ti fuori ti accoltellano, ti ammazzano, i genitori e anche i figli. I figli direttamente in classe, si vedono certi video su YouTube dove gli alunni minacciano il professore, cioè proprio così platealmente, fa: siediti, se no cosa vuoi fare se non mi siedo? Così, no? Ma vaffanculo. No, diciamo non così sfacciati all'epoca quando andavo a scuola io, diciamo. No, io però c'erano sì delle situazioni molto limite, ma che quello era anche chiaro. Forse oggi, cioè, da quello che vedi, per esempio, sui social, la tipo che sbrocca la professoressa, l'insulta, gli dirai cose, cioè, nel senso. Ma io, guarda, su questo devo dire la mia, che come al solito è, cioè, secondo me. Sì, c'è sui social vedi tanta, diciamo, non rispetto verso i professori e cose di questo genere, ma da un punto di vista percentuale, perché adesso abbiamo i social e quindi, esatto, vediamo, sì, tutto. Perché ci sono i social, ma certo. Credo che sia cambiata molto la percentuale. Sì, allora in percentuale io non lo so, io dico, prendo la mia esperienza, e devo dire che quando una persona aveva questo atteggiamento riottoso veramente forte verso l'istituzione scolastica in generale, mi ricordo che c'era sempre un po' di scalpore, no? C'era sempre quella paura, quell'imbarazzo, che forse magari oggi in certe situazioni, quando io andavo a scuola da Matteo magari per parlare con i professori, non la percepivo, però è vero che non c'è un dato su questo, è solo una questione di percezione, no? Quindi chiaramente sì. Lascia il tempo che trova come tipo di discorso. E invece io parlerei, e qui vorrei sentire un po' tutti, ovviamente come sempre, le materie scomparse, ossia quelle materie che comunque in qualche maniera alle medie avevano una preponderanza, un'importanza che è andata perdendo magari gradualmente fino a sparire. Perché io per esempio faccio sempre in Buongiorno un cazzo, in tante altre trasmissioni, riferimento al fatto che noi studiavamo educazione civica e la studiavamo. Io mi ricordo che la studiavo, mi piaceva anche studiarla, perché comunque apprendevi io cose. Io ho mai aperto il libro di educazione civica. No, io l'ho comprati e rimasti interi intonsi e mai aperti. No, io la studiavo proprio, educazione civica. Anzi, ho sempre. No, ma non perché non volessi io, proprio perché non ce la facevano. Cioè era segnata, ma noi non la facevamo. No, io me la era ricordo, lì. Ma ricordo bene. No, io ho fatto il tempo almeno a vederla, perché poi comunque la scuola ai nostri tempi si faceva particolarmente leggendo sui libri a turno, sui banchi, magari meno alle medie. Sicuramente alle medie c'era, come dicevo prima, questa professoressa abbastanza ingegnosa, e facevamo la scuola in un modo diverso, però diciamo che spesso si leggevano, penso che l'abbiamo letto sicuramente, non mi ricordo un tubo, però mi ricordo di averlo visto. Beh, io non me lo ricordo. No, niente proprio. Siete troppo giovani. Io non ho capito che ha detto Roberto. Scusa, Roberto. Io non me la ricordo affatto. Cioè, non ce l'avevi proprio con materia o non ti ricordi di averla studiata? Tutte e due, mi sa. Tutte e due. Il che vuol dire che se per caso ce l'ho avuta è stata molto, molto residuale. Beh, no, è interessante perché noi invece si faceva, c'era un periodo poi in particolare nelle scuole di Roma si era fatta questa campagna, beh Roma c'aveva quel problema all'epoca della sporcizia in generale anche sulle strade, no? Ed erano state fatte delle campagne di sensibilizzazione relative a... C'aveva, non è che c'aveva, ce l'ha ancora questo problema. Sì, sì, no, vabbè, no, ti assicuro che era un'altra roba, cioè. Cioè le carte, tu prendevi le sigarette, le carte, quando hai finito le sigarette le buttavi per terra, cioè questo era il concetto, no? Oggi magari ci sono problemi più tecnici, no? Legati alla gestione dell'immondizia, magari a un po' di maleducazione delle persone, ma ti assicuro che c'è stato un momento in cui questo lavoro di grande sensibilizzazione che era stata fatta in coincidenza anche con un approfondito studio anche dell'educazione civica, comunque c'è stato un momento in cui c'era questa specie di bolla quasi felice, no? Nel senso che si era creata, che poi è durata poco, perché chiaramente se non perseveri nell'educazione chiaramente poi dopo alla fine tutto va un po' a puttane. Ma nessuno di voi ha avuto mai una lezione dove facevano vedere i cartelli stradali? I cartelli stradali facevano parte dell'educazione civica, sì, secondo me. Sì, sì, era l'educazione civica. Io mi ricordo scuola guida la prima volta che ho visto i cartelli stradali. Ecco, no, noi mi quando ricordo. Quando ho fatto scuola guida a 18 anni. No, a scuola ci hanno fatto vedere tutti i cartelli, quelli più classici, quello dell'attraversamento pedoni. Sì, sì. Insomma, beh, educazione civica era una materia che era comprensiva dallo diciamo dall'informazione su come funzionava a livello istituzionale il nostro paese fino alle regole base di comportamento anche stradale, quindi alla fine era molto omnicomprensiva, però era interessante come materia perché comunque c'erano dei ovviamente poi dovevi essere anche un po' predisposto a questo tipo di discorso, o forse perché a noi ce l'hanno fatta piacere, per esempio, no? Nel senso... Sì, magari era più regionale, non lo so, in certe regioni era più diffuso. Comunque io ho qua tre pagelle, per esempio, ma antiche, di cui una c'è solo comportamento, in un'altra c'è comportamento ed educazione morale e civile, sempre nello stesso riquadro, quindi era lo stesso momento, e poi è diventata educazione morale, civile e fisica. Quindi praticamente l'educazione fisica faceva parte di questo set, e poi andando avanti è diventata educazione fisica e basta. Ginnastica? Sì, ginnastica in pratica. Qui c'è la pagella. Ecco, no, aspetta, però ginnastica era all'elementari, alle medie era educazione fisica, insomma. Sì, esatto. Io la chiamavo ginnastica, tutti la chiamavano ginnastica. Qua era educazione morale, civile e fisica, e quindi stavano raggruppando un po' tutte queste cose finché poi dopo l'hanno fatta diventare l'educazione morale, civile è sparita, ed è diventata educazione fisica. Che stop. E quindi pensa che da noi si studiava anche l'educazione fisica, perché comunque prima di farti fare uno sport o farti fare determinate cose, ti spiegavano e ti insegnavano. Sì, sì, sì, ma infatti l'educazione fisica era in parte in palestra e in parte in classe. Educazione fisica, da me, per la mia esperienza, educazione fisica, tra virgolette, perché noi l'abbiamo sempre chiamata ginnastica, 3 anni di media e 5 anni di superiore, si chiamava l'ora di ginnastica, era l'ora del fai quel cazzo che vuoi, giocate a calcio e fine. Oppure più o meno, sì. Cioè, non abbiamo mai studiato niente. Per esempio, mio figlio adesso non ha mai fatto, in tutta la sua vita, non ha mai fatto, cioè non ha mai portato la tuta in palestra, non si è mai cambiato, non ha mai fatto la palestra. Però, cioè, si fa, ma non l'ha mai fatta. E non ha mai ricevuto una nota, niente. Boh, non ho capito bene che cacchio va là a fare. Comunque, tra le varie materie scomparse, a parte i lavori donneschi, che va sicuro, ho detto quando è venuta sta ragazza col curriculum, portò il suo diploma, cioè aveva 7 in materia lavori donneschi in un istituto scolastico pedagogico di Roma, che evidentemente era ancora ancorato a determinati concetti. Chiaramente non esiste, è anche degradante il nome stesso lavori donneschi, cioè è una cosa, però sì, sembra una roba come di serie B, fai sì, lavori donneschi, sì sì, ma è una, anche roba da libro cuore, cioè nel senso da 1800, capito, cioè nel senso non tanto era cos'era, lavare i vestiti, stirare, cos'era? No, e in realtà poi mi spiegò che era l'equivalente di economia domestica, fondamentalmente. Economia domestica è un lavoro donnesco, cioè nel senso, secondo quella scuola lì, io non mi capacito come anche a livello ministeriale non sia mai intervenuto nessuno, cioè a fare una cosa del genere, perché cioè deve essere anche umiliante, no? Cioè, nel senso, tutto sommato, pensare ai lavori donneschi. Però ecco, vabbè, educazione civica, lavoro, per esempio. Allora, lavoro igiene, io non ne ho mai sentito parlare, per esempio. Poi se ne volete... Io ce l'ho in pagella. Cioè, igiene, c'ho che lavoro. Voi ti insegnavano a lavarti. Era scienza e igiene, cioè, faceva parte della stessa arte. Quindi era scienza. Scienza, ok, vabbè, quindi... scienza e igiene. Però, cose magari più estese, che poi magari dopo canto, mai neanche saputo che esistesse. Io c'ho sempre in pagella, c'ho canto. Beh, canto noi no, cioè, noi c'avevamo musica, quello sì. Musica. E il flauto con musica. Ma ce l'ho ancora il flauto da qualche parte. Il flauto l'abbiamo avuto tutti, abbiamo tutti spaccato. Inno alla gioia. Inno alla flauto. Sì, la canzone da Barilla. Sì. Ecco qua, apposta. E mi ricordo, c'era questa professoressa di musica, faceva sempre un fa fa si si la, un fa fa si si la, era una mezza sgangherata. Il solfeggio, tre quarti. Solfeggio, sì, certo. Sì, vabbè, io poi l'ho studiato a prescindere, perché io ho studiato anche organo, quindi insomma, quante cose strane. Su questo ho una cosa da dire recente, che è molto divertente, che mio figlio in prima media quest'anno, rapporto quindi scuola di adesso rispetto a scuola di una volta, c'ha musica, e dopo un po' di lezioni dico: vabbè, ma allora il flauto ti ha detto se dobbiamo comprarlo o non comprarlo? Ma papà, ma cosa dici? Il flauto non si usa. Io, come il flauto? Eh no, col Covid basta, è vietato. Ci ha detto di comprare l'ukulele. E io, l'ukulele? Quindi adesso a scuola non usano più il flauto, ma vai in cartoleria scolastica lì, quella della vicino alla scuola, e ti vendono a 20 euro l'ukulele per la scuola, per musica. Questo è un grande cambiamento nella scuola, nell'insegnamento della musica, che è avvenuto col Covid praticamente, perché col flauto si mette in bocca, quindi non va più bene. Era meglio la chitarra. Però ci sta col discorso del Covid, del fatto del flauto, che alla fine ci sputacchiavi dentro. Sì, ma io non ci pensavo, infatti ci sono rimasto. Si sputavi da tutte le parti. sì, a voglia. No. E tra l'altro c'è Claudio in chat che ci dice. Che lui si ricorda educazione civica e che la madre studiava anche calligrafia. Infatti qui Davide nell'elenco ha scritto bella scrittura, e bella questa scrittura. Questa cosa io me la ricordo, perché io avevo a casa, ovviamente l'ho perduto, non ce l'ho più, non so, tra i vari traslochi, un quaderno di un mio parente di inizio secolo, quindi nel 1910 mi pare, una cosa del genere, che c'era tutto questo quaderno di matematica e no, era algebra e geometria, che era scritto con una calligrafia meravigliosa, cioè E a scuola una volta questa cosa era un elemento importante. Oggi giustamente Claudio dice i ragazzi scrivono in stampatello. Io non lo so se i ragazzi scrivono in stampatello, però so che lo faccio io. Sono talmente abituato oramai a non scrivere con la penna che in generale anche quando vado in banca devo firmare dei documenti o del genere. Cioè... Io sono arrivato a un punto che se scrivo su carta non riesco più a leggere quello che ho scritto. Cioè, talmente male che non lo leggo più neanche questo io. Da sempre io. Vabbè, questo però può essere anche un problema neurologico, a dir vero. Allora, non lo so, perché ormai sono talmente abituato a scrivere su computer da sempre, cioè dagli anni 80 che scrivo col computer, quindi. Roberto, tu invece ormai la scrittura cartacea l'ho disimparata. Guarda, io scrivo meglio adesso che da ragazzino, invece mi sono inventato una mia scrittura che non è stampatello, diciamo, però copia i font. Ma scrivi Arial, tu Arial 12? Scrivo Arial 12. Elvetica. Per cui va bene, insomma, questo me lo ricordo. Io devo dire la verità, le mie memorie delle scuole medie sono poche. Non so dire perché, e non ho praticamente di quasi tutti, non ho la più pallida idea di che fine abbiano fatto. Non so se questo è una cosa triste. Oppure no, però. Vabbè, non vuoi rischiare querele tu, le vuole solo rischiare Simone. Io sì, lui, già dato. Ma lui si comporta come si comportava a scuola, cioè. E lui si mette all'ultimo, no. Fa il paraculo e aspetta che le colpi cadano, esatto, sugli altri. Esatto. Paraculo. No, non so se l'ho rimosso per qualche motivo, però è abbastanza un buco nero, vi dico la verità. Ti picchiavano, quindi una singolarità di massa infinita. A parte gli scherzi, chiaramente ho dei ricordi, però non vividi come l'elementare o come le superiori. Diciamo che sono passati così, sono 5 anni passati, non si sa. Tre anni passati velocemente, forse anche perché sono 3. Va bene. Io poi li ho fatti un po' qua un po' là, e li ho fatti in 2 scuole diverse. Ho fatto la prima media, la terza media. Michele in chat dice che lei faceva educazione civica anche alle elementari. Mi sembra strano, devo dire la verità. Magari c'era un qualche tipo di educazione, ma educazione civica, per come la conosco io elementari, mi ricordo la maestra unica, quindi facevi solo con lei, basta. Sì, vabbè, ma non è che questo non vuol dire che non c'erano le materie, però. Cioè, nel senso, c'era la sola maestra. C'erano pure le materie, no, c'erano uguali. Faceva lei geografia italiano, matematica, italiano, calligrafia, bella scrittura, i lavori donneschi, tutto canto, insieme. Ogni volta dite bella scrittura, mi viene in mente una canzone, tipo bella scrittura. Mai sentito? Ma nemmeno. Ma no, è così, è una canzone di adesso, solo che mi viene in mente. Però, sai cos'è? C'è l'atmosfera, è la canzone. C'è ancora adesso, però non ne parliamo mai. Ma c'era la famosa ora di religione. Io di quello infatti volevo parlare. Che tra l'altro l'ora di religione non era facoltativa una volta. Cioè, no, esatto, era obbligatorissima. Non aveva nessuna valenza, quindi alla fine ognuno chi si scaccolava, chi faceva, ciucciava le dette alle barbe. Di solito era usata per fare i compiti delle altre materie, anche sì, studiare, sì, l'interrogazione dell'ora dopo, qualcosa del bravo genere, anche sì, bravo, sì, è vero. Di solito non sentivi il professore o la maestra o la suora o quello che arrivava, parlava e tu non lo ascoltavi. Vabbè, c'è anche da dire, se vi ricordate, quantomeno alle medie, ma soprattutto alle elementari, era un periodo in cui, almeno nelle mie scuole e nelle mie classi, non c'era mai quasi nessuno di straniero. Rarissimo che ci fosse qualcuno di straniero che potesse avere una religione differente. No, non c'erano, non esistevano gli stranieri. E quindi la religione era quella e basta, e quindi era una materia di fatto, non esistevano altre religioni, neanche quasi sapevamo che ci fossero delle altre religioni. Infatti è vero, cioè l'ora di religione era l'ora della nostra religione, secondo loro. Poi io mi ricordo che c'avevo questa professoressa che era invasatissima e mi diceva: tu, ecco, allora Simone, di che religione sei? E io facevo: boh, com'è possibile? Si incazzava, cioè, no, io sapete che ero riottoso alle religioni già allora. Tra l'altro, Claudio, se ci spieghi un po' bene questa cosa che hai scritto, perché non l'ho ben capita, perché lui dice c'era l'ora di melodia, quindi melodica tutto spiano, e poi giù a fare l'elicottero dopo l'ora di musica, che vuol dire? L'elicottero? Non lo so, elicottero, o si scorreggiava o non lo so. Vabbè, poi lo vediamo, dai. Vabbè, poi ce lo spiega. Comunque l'ora di religione bu, e quindi poi alla fine dopo... Era un'ora di pausa, quasi. Sì, un'ora come l'ora buca, come quando sì, non c'era quasi prof. Un'ora buca, sì. Io ho una domanda relativa alla religione e all'ora della religione, perché poi l'ora della religione tu comunque fa contenta la maestra qualche volta quando era Natale, andavi a messa con tutta la scolaresca. E c'ho una domanda che è relativa a Runtime by Night, quindi alla prossima Runtime by Night partecipate, perché ne diremo delle belle, perché poi la mente umana è un po' malata, no? Cioè, nel senso, quando tu sei in determinate condizioni dove in teoria la tua mente dovrebbe elevarsi e tu pensi alle cose più bieche e becine che possono esistere, insomma. Vabbè, comunque dai, a parte questo, vabbè, la cosa dei genitori e i primi turbamenti, Diciamo che alle medie ho capito come funzionava fino a che non trovavi la ragazza con la quale ti fidanzavi, perché in classe mia, che eravamo 27 mi pare, cioè eravamo più o meno numero maschi e femmine, eravamo più o meno quasi equivalenti, quindi c'era un te lasci te metti, che era così, era all'ordine della settimana, tipo ti mettevi con una, ma sono messo con quella, poi 3 settimane dopo l'ho lasciata. E poi la cosa bella è che ogni volta era sempre la stessa storia del ragazzino che gli diceva la ragazzina guarda te lascio, e lei si metteva a piangere, ma perché tanto dopo 2 giorni ti sei messo con altro, cioè ma che cazzo te cambia. Però c'era sempre sta scena che io non la sopportavo, perché cioè nel senso era tutta un copione, no? E anche lì era un po' strano, io però insomma così funzionava, eh. Però c'è state i primi innamoramenti, diciamo, quello però anche all'elementari, volendo insomma avere magari la cotta per quella che ti piace. Io mi ricordo che all'elementari mi piaceva la più brutta da classe, era pure una cosa, perché in realtà secondo me poi alla fine infatti ho scoperto anni dopo, perché che era fine... quella che la dava più facilmente, no che dava elementari, dava, no, questa era pure una santarina, era una santarina, però rientrava proprio nella mia immagine della donna ideale, cioè la principina, capito, tutta angelichina, tutta curatina, però era bruttina. Poi dopo però poi alla fine invece negli anni ho scoperto che era diventata anche insomma una fregna, quindi insomma tutto sommato ci hai visto lungo, esatto. Io ero, cioè, avevo l'innamoramento di Nostradamus, si chiama che praticamente io immaginavo, precorrevo i tempi, insomma, diciamo così. Voi i primi turbamenti che mi dite? Beh, io ho avuto la fidanzatina alle elementari, proprio alle elementari, Laura Giola, che poi vabbè, siamo rimasti comunque in contatto anche anni dopo, ogni tanto ci sentiamo, però era proprio, eravamo i due fidanzatini, perché non era alle elementari, mentre alle medie e poi soprattutto alle superiori tutti hanno iniziato ad avere, non so, a cercare o comunque avere la fidanzata. Alle elementari era qualcosa di strano, cioè di solito i bambini elementari non ambivano ad avere la ragazza o la fidanzata, era una cosa, diciamo, non standard, anzi di solito si odiavano i maschi con le femmine elementari. Io invece con Laura eravamo i due innamorati dell'elementare, praticamente eravamo i due fidanzatini, infatti era un po' anche preso in giro dalla classe in questo senso, nel senso che eccoli lì la coppietta, no? ti schernivano, come per dire, addirittura dal maestro degli elementari ci prendendo, ecco i due fidanzatini Carlo e Laura. Vabbè, però era una cosa così, è durata poi anche andare avanti, no, però non è così insolito come tu possa pensare, perché c'erano due modalità, io mi ricordo c'erano le due modalità fondamentali del finanziamento delle elementari. La prima modalità è ce l'hai la fidanzata, sì, come si chiama, Giorgia, ma lei lo sa? No. E questa è la prima modalità. E la seconda modalità erano magari i due ragazzini che si piacevano e si tenevano per mano, poi fondamentalmente non è che facevano, sì, era così, esatto. Quindi sì, no, questa cosa non era così insolita. Io invece sono stato violentato all'asilo ho subito una violenza all'asilo. La zia che ti violenta a scuola? Era un'altra ragazzina, sempre dell'asilo, che a un certo punto, chissà perché, magari l'aveva visto in televisione, io non lo so, veramente ragazzi, è una cosa, mi sconvolse questa cosa. Arrivò questa, praticamente io stavo in castigo, lei, adesso dico solo io, pam, mi ha ficcato la lingua in bocca. E io ho fatto capito, cioè, che schifo bravo, cioè, ma sei una bestia, ho capito, ma cioè, e quindi sono stato violentato, io ho subito un avanzo non desiderata, capito, cioè una molestia, madonna mia. Vabbè, comunque qua te ne raccontiamo, sì, prima o poi ci arriveranno le lettere da Apple, subito, pure da Google, hai subito di quelle cose però. Ma io, guarda, sono posso dire veramente, sono felice di aver vissuto la mia vita, perché io mi sono, in generale, nel momento mi sono sempre molto divertito, anche pianto per storie, insomma, situazioni, storie importanti e roba del genere, però l'ho sempre vissuto con entusiasmo, con passione, no? E oggi magari a riraccontarlo mi viene il sorriso, cioè non lo guardo con malinconia, dico ah però allora quanto mi divertivo, roba del genere, lo guardo con serenità, tranquillità, il fatto che però mi viene in mente sta diva, che poi la pure è brutta tra l'altro, questo tutto è brutto, però poi è diventata una figa, non lo so magari è finita sotto un treno, non lo so, cioè, non ho avuto più notizie, mi ricordo soltanto l'immagine di sta tizia con sti occhialoni giganteschi che mi si muoveva, solo io mi si muoveva davanti alla faccia mentre che sentivo sta cosa schifosa, capito? E io ho sputato, capito? Cioè, che l'hai sconvolta pure a lei, Corina. Ho capito, ma scusa, ma come ti permetti di fare una cosa che ti avrebbe fatto piacere? Probabilmente, ma come ti viene in mente, chissà, cioè quella ragazzina che cosa vedeva nella sua quotidianità per farti venire in mente una cosa del genere, capito? Questo voglio dire, no? Perché avrà visto poi i grandi, avrà visto i grandi, sì, che si facciamo, sì, no, sì, detto, se questa è una roba figa la vado a fare con lui, così almeno lo... Ma eri così, ti cuccavano sempre, eri un bell'uomo, Bell'uomo, sì, esatto. Beh, io fino insomma, a una certa sono stato anche vero, sentiamo mia moglie, sono stato sempre un bell'uomo. No, si faceva per dire, becchi le bracchione che ti leccano. Comunque il terrore degli esami, andiamo avanti, ma che sono del monzo, oppure volete aggiungere cose voi? Perché no, volevo solo precisare prima che Claudio aveva dato delle informazioni sulla melodica eccetera, la melodica sarebbe uno strumento musicale che è una specie di tastierina che si soffiava dentro, non so se ce l'avete presente, con un tubo che a una tastiera, proprio come fosse un piccolo organetto, si suonava con le dita, con le tasti, che c'erano le due ottave, tu ci fischiavi dentro e suonavi, ed era uno strumento musicale che si usava effettivamente a scuola. Diceva che poi l'elicottero si staccava questo tubo pieno di saliva e si faceva girare tipo tubo sonar, okay. E usciva tutta la saliva giro bella schifezza. Io invece no. Però, Pier lo ricorda che si faceva comunque anche col flauto, pieno di saliva tu lo facevi girare, sì. Ma io c'avevo un amico mio che non aveva bisogno di tutti questi artifici, perché c'era uno spazio in mezzo tra il dente, tra i due denti centrali, e quindi lui faceva, tirava sul labbro e faceva partivano certe schifezze, brava, bella roba. Come rovinare una trasmissione, comunque. Però si sputava parecchio in quei tempi. Ricordo che per farsi, per quando volevi rompere i coglioni a qualcuno, gli scataravi addosso sempre. C'era questa mania. No. Si sputava anche molto, non so se... anche molto, si sputazzava anche, devo dire. Mi ricordo che cosa dei fluidi corporei che si spargevano a casaccio, insomma, sì, è vero, però. Cioè, tipo una cosa. Eravamo tutti morti se c'era il Covid. Ma in realtà noi, secondo me, siamo sopravvissuti a un periodo dove anche la scuola, anche dentro la classe, c'erano delle minacce biologiche, erano indifferenti. Perché vi ricordate le gomme da masticare, appiccicate da per tutto, cioè, che tu magari appoggiavi le mani sotto al banco, perché il banco c'aveva il sottobanco praticamente, e sentivi tutta questa di menta. E sentivi tutta sta roba che tu cercavi di capire che cos'era, e magari ti si appiccicava perché poco prima qualcuno ci aveva appiccicato dici. Ma poi ci stavano delle gomme da masticare che stavano lì dal decennio, dal ventennio fascista, magari. La guerra. Esatto. Hanno visto la guerra, sì. Esatto. Erano le cicles. Sì, cicles si diceva in Piemonte, in Lombardia noi le chiamavamo le cicche. Proprio sì, le cicche, come si chiamano invece i mufconi di sigaretta, invece le cicche hanno le gomme da masticare. Sì, a Roma come le chiamavate? Cioè, no, le chiamavano le gomme, perché in realtà io infatti quando conobbi per la prima volta un ragazzo di Segrate, quindi un bambino, perché eravamo in settimana bianca, lui diceva la cicca, io per me le cicche erano i mozziconi di sigaretta, cioè nel senso non erano le gomme, capito? Invece per noi erano le gomme. Esatto. Cioè, semplicemente le gomme. E poi vabbè, cioè magari le Brooklyn, le Big Bubble, quelle che cazzo erano, ma erano comunque le gomme, non erano le cicche. Insomma, da noi le cicche, ho detto, erano i mozziconi di sigaretta, quindi nient'altro. Sì. No, ma in italiano le cicche sono mozziconi di sigaretta, proprio in lingua italiana. Però a Milano si dice cicca per dire c'è un gomma da masticare. Sì, ma quello poi l'ho imparato, perché poi in realtà non solo a Milano, però lo vedevo anche nelle Marche, si diceva così, insomma, più vai al nord e più questa cosa era comune. Poi oggi oramai c'è stato un po' tutto un pastuglio, quindi bene o male si utilizzano termini al sud che si usavano al nord e viceversa, insomma, quindi in generale. Però allora era più inconsueto quando sentivi una parola in un dialetto diverso e tu dicevi che cosa, che intendi, ti spiegavi, no? Perché poi alla fine, insomma. Comunque concludiamo, diciamo, le medie con, io penso, il passaggio più importante, no? Il primo vero grande esame che si fa nella propria vita, anche se poi c'è anche quello dei quinti elementari, ma insomma era più una formalità. Ecco. In proposito a questo, nella prima puntata avevo accennato al discorso dell'esame di seconda elementare e ho avuto conferma da un nostro ascoltatore che mi ha scritto dicendomi: confermo, guarda, io sono del 69 e sono stato l'ultima generazione a fare gli esami in seconda elementare. Ah, okay. E chi è nato nel 70 invece, quindi tu non te lo ricordi, ma l'hai fatto. Sì, io non me lo ricordo, ma l'ho fatto di sicuro. Ma nella verità mi ricordicchio, però era proprio un esame pour parler, nel senso, era quasi una prova in valsi di adesso. Sì, no, ma diciamo che io mi ricordo questa cosa della seconda elementare, non mi ricordo l'esame, però mi ricordo che la maestra forse o ce lo disse o qualche cosa, e si faceva comunque, anche se non aveva più valore, si faceva una sorta di piccolo testino di testa, qualcosa, io me la ricordo, però devo dire la verità, non posso confermare le cose che la dico. Tua memoria non sì, puoi confermare la tua memoria. Comunque Davide ha aggiunto un po' in corsa le gite. Allora, le gite delle medie secondo me erano tutte uguali, cioè allora a Roma tutte le scuole, in particolare il terza media, c'era cioè la gita della terza media che era una sorta di gita finale, si andava tutti a Rimini, sempre a Rimini si andava, non è che c'erano cazzi praticamente. Bello, però bello, le gite belle erano quelle delle superiori, cioè lì veramente. No, le medie noi andavamo nelle ditte, nelle aziende, andavamo a vedere un sacco di aziende, la Coca-Cola. La Mars, l'acqua Fiuggi, tu qui dici quelli allora la gita è quella giornaliera, pure noi andavamo alla centrale di Roma, andavamo ai musei, la centrale del latte. Sì, la centrale del latte, bravo, esatto, insomma andavamo. Però io parlo della gita quella la settimana che tu facevi fuori. Che insomma alla fine noi alle medie era Rimini, insomma, esatto, no, noi forse in montagna si andava da qualche parte, io mi ricordo Firenze, sì, Roma, Firenze, Assisi, ecco, mi è venuto in mente Firenze, ci siamo stati, e Venezia anche l'elementari, la città Venezia, di cui ho un filmino in Super 8 che però hai diviso in tre parti, intervallato da un porno inizialmente, chi l'ha messo, come i tre oggetti di King's Quest, lo specchio, la spada e lo scudo, che vengono sparpagliati per tutta Daventry, e vabbè, questa la capiamo solo noi che siamo stupidi nerd maledetti infami, io giocatore. Vabbè, dai, comunque l'esame, ragazzi, cioè, la sensazione del fare la prima cosa grande, ecco, quello sì, più che il terrore. L'esame di terza media. Sì, era più la sceneggiata che facevi, insomma, no, del fatto, oddio, ci sono gli esami, no? Allora stringiti, ti consolo io. Per me gli esami di terza, io ho un bellissimo ricordo degli esami di terza media, soprattutto perché io non ero considerato secchione, assolutamente. infatti avevo anche delle materie dove i professori dicevano questo non capisci un cazzo, roba di questo genere, soprattutto qua in italiano, ecco, mi ricordo che non avevo una bassissima considerazione di me in generale, e gli esami delle terza media me li ricordo con una rivincita, perché andarono molto bene. E i professori, soprattutto sia nei compiti scritti che feci, ma poi nell'orale, in cui ricordate agli esami di terza media avevi i tuoi professori che ti guardavano tutti insieme quando facevi l'orale, ve lo ricordate? Nella terza media. Sì, era una commissione, se lo ricordo. Non era una commissione esterna come alle... erano i tuoi professori. Sì, erano i tuoi professori. Sì, è vero. E lo feci molto bene, anche l'orale, infatti ricevetti poi complimenti da tutti i miei professori, soprattutto quella di italiano, mi guardò con una faccia come dire, ma questo come fa a fare una cosa del genere? A me per poco mi bocciavano, pensa un po'. Quindi che alla fine questo, io non sono mai stato bocciato, proprio ma... come rivincita, diciamo, personale su alcuni professori all'epoca delle medie, ecco. Io sono stato quasi bocciato addirittura. Sì, perché a parte, vabbè, io nell'ultimo, diciamo, seconda e terza media non ho studiato niente, e compreso l'esame di terza media in cui portai il Giappone, ma tipo la mia preparazione sarà stata due fumetti giapponesi, questa era la mia preparazione. In più c'era la professoressa di italiano che praticamente mi odiava, perché lei ha sempre detto anche ai miei genitori, lui potrebbe fare quello che vuole, però fondamentalmente non gliene frega un cazzo, quindi non lo fa. Vabbè, però questo lo dicevano a tutti, eh? Tipo, lo dicevano tutti, ma a me è intelligente, ma non si applica, come si dice. Non si applica. Esami tante volte. Mi odiava particolarmente. Va detto che aveva ragione, sono passato. Ma infatti, come biasimarla, tutto sommato. Esatto. Sono passato perché non si bocciava nessuno, però... Ma io mi ricordo gli esami, mi ricordo che facevo, cioè lo scritto in particolare, mi ricordo che stavamo tutti nella palestra, quindi c'era tutta questa sfilata dei banchi, già questo setting nuovo che un po' ti incuteva timore, no? Il fatto che era una cosa grande, cioè sembrava chissà che cosa, però poi di per sé comunque io gli esami sono andato abbastanza bene, non ci ho avuto particolari problemi, quindi devo dire la verità che me ne sono uscito, e sempre comunque durante l'esame veniva la professoressa di storia e diceva, tanto lo sapete, no? Già ve l'ho spiegato. Che vi promuoviamo a tutti, così ve levate dai coglioni, perché insomma. Esatto. No, sugli esami ho un aneddoto da raccontare che mi è venuto in mente adesso, anche se è abbastanza importante, non me l'ho scritto, ma io all'esame delle scuole medie, la mattina dell'esame orale, sono svenuto a casa, sono svenuto con un attacco epilettico, cioè stavo bevendo il latte, sono caduto per terra, Madonna. Mi stavo rivoltando, e praticamente mia madre spaventata ha chiamato il dottore, io avevo gli esami e sono praticamente, il dottore è venuto, ha detto era troppo teso, troppo è andato così, mi hanno portato comunque a scuola, ero bianco col dottore che ha comunicato che ho avuto questo problema, quindi arrivo in ritardo per quello, e presi dalla compassione praticamente non mi hanno neanche fatto fare l'esame. Ho passato così, così gratis. Grande. E mi ricordo, è stata proprio una roba, però sono svenuto davvero, infatti, ma guarda che poteva benissimo succedere, gestione in pratica, sì. Data ma poi ti considera che era già giugno, quindi già magari faceva caldo, tante cose, no? Comunque alla fine spesso e volentieri poteva succedere, comunque dall'emozione in generale. Però mi hai fatto ricordare una cosa che non c'entra assolutamente niente, però la racconto uguale perché mo mi è venuta in mente, sennò poi andrà persa come lacrime nella pioggia. Che mi ricordo, esatto, che c'era mia madre, che era terribile con la scuola, cioè mia madre è un personaggio grandissimo, cioè proprio è difficile riuscire a descrivere che tipo di persona era, perché era una persona speciale, però su alcune cose, tipo la scuola, era totalmente intransigente, cioè ma non che strillava o facesse qualcosa, però non si passava, cioè tipo era Gandalf, tu non puoi passare, era così, insomma. E praticamente io mi ricordo che c'era una volta, c'era questa interrogazione, lei lo sapeva ovviamente, perché sennò, che poi tu pensi di incularli i genitori, in particolare magari una madre particolarmente attenta, ma loro lo sanno, cioè come funziona, perché... se loro sono sanno lunga, eh sì, ma perché... è normale, no? Cioè come io spiegavo pure noi con Michela, spiegavamo a Matteo quando lui faceva certe cose, Matteo, ma tu veramente pensi che il mondo intorno a te è fatto di scemi, cioè nel senso noi siamo passati prima di te, no? Comunque, mi ricordo che una volta c'avevo questa interrogazione e non ci volevo andare, mi sento un po' poco bene, però lì me la sono giocata un po' male, devo dire la verità, perché se non facevo la sceneggiata dall'inizio, secondo me tutto sommato, e praticamente che ho fatto, sono sceso, quindi sono preparato tutto, la cartella, tutto quanto, ho fatto 5 volte il circondario, quindi l'isolato de corsa, come se fossi mezzo pazzo, ma avranno preso un pazzo. Sono salito su casa, mia madre mi ha aperto la porta, mi fa: che fai? Io ero tutto sudato, mi ha fatto: ah, mi ha inseguito uno, mi voleva inseguire, ma lo so che voleva, vai a scuola. Sono febbre, vai a scuola. Non gliene fregava un cazzo, cioè proprio non gliene poteva, su sta cosa non gliene fregava un cazzo. Una volta sono rimasto veramente dentro l'ascensore, che praticamente il tizio là, il portiere, ha aperto le porte, poi dice: arrampica di qua, di là, insomma alla fine mi ha fatto scendere da sotto, e mi madre: vai a scuola. Era come una sorta di meme, capito? Cioè sbucava fuori mia madre con la scritta già incorporata, vai a scuola, capito? Cioè, era così. Ah, ma che poi c'era quella volta che avevi veramente, che stavi male, eccetera, però era talmente tante le volte che fingevi, sì, che non ci credeva neanche quando, sì, stavi veramente male. Quindi io sono dovuto cadere per terra, vomitare e avere un attacco epilettico perché ci credesse, se no manco non ci credeva. Proprio il giorno degli esami, vai, pedala. Allora, c'è un punto importante che ho aggiunto, che Davide ha aggiunto, però io su questa cosa, non per una questione di delicatezza del tema, perché il tema è importante, però è un tema molto ampio oggettivamente, perché parlare dell'handicap delle scuole degli anni 70 e 80 aprirebbe, e io qui avrei da dire veramente, eviterei in questo specifico caso. Era una bella esperienza nel mio caso, però in realtà, perché l'integrazione di molto particolare, perché il concetto di integrazione negli anni 70 e 80 era molto relativa, cioè non c'era, secondo me, la preparazione neanche da parte degli istituti, quindi c'è, però, ti posso dire, da noi anche noi avevamo un ragazzo con dei problemi. Martinit era quello, il famoso istituto, ma alla fine ti posso dire che tutto sommato è riuscito decentemente a, dipende sempre pure dall'integrarsi. Sì, è vero. Allora, nel mio caso era una persona che aveva dei problemi proprio di movimento, non riusciva a scrivere, non poteva scrivere, e abbiamo fatto una colletta e tutti noi le abbiamo comprato una macchina da scrivere elettrica, cioè la nostra classe, non la scuola, la nostra classe ha comprato una macchina da scrivere elettrica. È questo che ti dicevo, insomma, perché rientra lui, tutto sull'esperienza personale alla fine, no? Esatto, certo. È riuscito ad andare avanti, noi non gli facevamo scherzi o altro, anzi eravamo molto, lo aiutavamo molto, e ho saputo di recente che comunque ha avuto tutto un suo progresso di vita nonostante avesse questo grosso problema, dove non riusciva a parlare, non riusciva a muoversi, aveva tanti problemi, e devo dire che non ho visto questa cosa nelle altre classi, l'ho vista solo nella mia classe, per cui volevo capire se era una cosa che è capitata solo dalle mie parti o capitava un po' a tutti. Però già sento Roberto che anche lui aveva un'esperienza del genere nella sua classe. Non ti so dire dalle altre parti, da noi, oddio, il ragazzo aveva dei problemi evidentemente, un ritardo, però riusciva comunque a raffrontarsi bene con noi, quindi alla fine, salvo rarissimi casi, devo dire, perché mi ricordo che in alcune occasioni era un po' nervoso, però in generale si è ambientato bene, non ricordo problemi. No, più che altro se era una cosa casuale che è capitata nella mia classe o era una prassi normale. No, ma io secondo me, guarda, ti dico, anche per esperienze che ho avuto io, magari anche più sicuramente, però era tutto sempre demandato alla sensibilità di chi c'erano intorno, cioè non c'era un supporto, questo che voglio dire, cioè parlare di handicap nelle scuole degli anni 70 e 80 secondo me è una puntata in sé, cioè, ma magari una puntata anche seria, o magari una puntata seria magari fatta in un altro contesto, perché oggettivamente c'erano delle limitazioni, ma anche culturali, cioè io noi eravamo il paese che teneva comunque l'handicappato dentro casa, poi fondamentalmente, no? Sì, cioè, io mi ricordo questo, nel senso che da noi, almeno io nelle elementari, nelle medie, nelle superiori, non esistevano persone con handicap all'interno della scuola o dell'edificio scolastico. Purtroppo c'è da dire che negli anni quando noi eravamo giovani l'handicap era vissuto in quel modo, cioè l'handicappato, se poi era grave, lo tenevi dentro casa, cioè c'era, ti poteva capitare di trovare l'handicap leggero, ma non sicuramente handicap pesante. Mentre adesso invece l'esperienza che ho con i miei figli, sin dall'asilo ci sono introdotti nelle classi le persone con disabilità, con handicap, ci sono a seconda dei vari gradi di handicap, sono accompagnati, sì, magari c'è un personale di supporto, chiaramente, certo, personale di supporto eccetera, ma comunque sono assolutamente integrati, e sia mio figlio che mia figlia hanno vissuto tranquillamente nelle classi dall'asilo all'elementare, sì, alle medie e superiori. Infatti è questo quello che intendevo dire. Poi Michela dice per esempio che loro nella loro classe avevano un ragazzo autistico che era comunque coccolato, protetto, no, dalla classe, e poi lo sfruttavano ovviamente perché era bravissimo in matematica. Alla fine c'è sempre il risvolto negativo, insomma, della cosa. Allora, niente, era una piccola parentesi, perché avevo avuto una esperienza che nel mio caso è stata costruttiva per la classe e probabilmente anche per lui. No, immagino. No, ma hai fatto bene. Il problema è che ovviamente, ecco, hai specificato il fatto che hai voluto raccontare una tua esperienza, così come ha fatto Roberto, ma non è un tema da aprire perché è veramente troppo complicato. Un secondo, certo, soltanto, ragazzi, un secondo solo. Beh, vabbè, questi sono in Nirvana con Skull. Ho preso una pausa perché praticamente Chess, praticamente sono arrivati. Sono Chess. Prego. No, niente, no, battutaccia. Sentivo Chess, sono Chess, non ho capito poi cosa di. Parlava di scacchi. Certo, certo, Carlo Sant'Agostino, che forse sentite l'hip hop, a trap, i cazzi mi ammazzi, ovviamente, bella musica, dura, ma da, sei scordata, e quindi giustamente. Esatto. Quindi andiamo avanti. No, allora, facciamo. Era una battuta, lo so che dicevano non recess, però vabbè, dai, era Chess, quindi. Ti faceva ridere, perché sei tornato a scuola. Fondamentalmente. Sì, infatti, adesso vengono in mente le battute dell'ultima ora, no? Quelle che facevano riderissimo proprio. Allora, io c'è una cosa che nelle scuole superiori, e le scuole superiori è lo step avanti, è forse il momento definitivo, no? Cioè, quando entri, insomma, dove cioè, rimonavi per davvero, dove rimonavi davvero. Ma no, ma soprattutto perché secondo me è la massima espressione scolastica, tranne che per chi ovviamente poi è andato a fare l'università o chi ci è arrivato, perché a volte la gente ancora ci arrivava ai superiori. Insomma, vai alla pure, insomma, anche un pochetto, insomma, e ci sono elementi classici. Io mi ricordo c'erano delle cose che amavo tantissimo e le amavo A prescindere, che era per esempio epica, cioè nel senso, quindi Eneade, Iliade, Odissea, Eneide, Odissea. Appunto, quindi cioè, tutta la l'epica appunto greca, io la adoravo proprio, cioè nel senso, non vedevo l'ora che c'era, l'ora perché comunque mi piaceva proprio leggere queste cose. E negli anni, per esempio, in particolare l'Iliade me la sono riletta anche per cazzi miei, anche se poi dopo. È affascinante che questi riuscivano a costruire 2000 e passa anni fa una narrativa anche strutturata, sebbene poi oggi la guardi in confronto a tante altre cose, era tizio che dava ammazzata a Caio, scendeva l'ombra della notte su di lui e cadeva inerme a terra, cioè nel senso, se vai a vedere poi alla fine l'Iliade in particolare è un elenco di cristi che menano altri cristi e che muoiono poi, no? E la cosa affascinante, a me è sempre piaciuta, è che l'esercito greco e l'esercito troiano non erano soldati contro soldati, ognuno aveva un nome, cioè, tutti avevano un nome, e quindi praticamente io immaginavo praticamente uno che conosceva tutti i nomi di tutto l'esercito greco e di tutto l'esercito iliaco, insomma, quindi il troiano, insomma, questa cosa mi ha sempre fatto ridere. Invece delle cose che ho odiato invece profondamente sono la Divina Commedia, quindi Dante, che mi stavo così coglioni, no? E i Promessi Sposi, cose che però poi dopo negli anni, anche per una volontà mia di recupero, insomma, perché io comunque a me comunque recuperare i vecchi romanzi di deformazione o anche le grandi opere come appunto le cose epiche oppure la Divina Commedia, poi alla fine l'ho anche riapprezzate. Ma perché? Perché dopo ti si sviluppa anche un po' la curiosità e magari sei anche più maturo per poter comprendere determinati passaggi, e due, perché le materie, soprattutto quelle pesanti e obbligatorie tipo la Divina Commedia, alla fine comunque dipende sempre da chi te insegna, perché ci metti, esatto, poco a fatte dal naso i coglioni queste cose, insomma. Credo che valga per tutte le materie comunque in generale, eh? Sì, è vero, certo. Assolutamente vero, però in particolare per queste, perché erano comunque appesantite anche da una necessità, come posso dire, di traduzione. Cioè tu quando leggevi comunque la Divina Commedia la leggevi col testo comparato, perché alla fine non è che tu capivi al volo quello che stava a dire, cioè ok, che ne so, cioè nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai una selva oscura, cioè nel senso, pensi perché che la dritta via era smarrita, pensi a uno che sta camminando, entra in bosco, cioè nel senso, la prima cosa, sì. Poi invece vai a vedere che ogni risvolto, e poi mi ricordo tutta la cosa sul conteggio delle, insomma, di tutta la metrica, no, della Divina Commedia, che sa il capolavoro assoluto dell'umanità, nessuno lo mette in dubbio, però studiato a scuola in quella maniera là era una rottura dei coglioni infinita, cioè nel senso, oggettivamente. Ma fermo. Poi non so voi, chi di voi, ma in generale chi ha studiato materie scientifiche in generale contava di entrare nelle superiori e finalmente vedere quello che gli interessava, magari la materia scientifica di un certo tipo, l'elettronica. Ad arrivare a scuola c'era la Divina Commedia, ma i Promessi Sposi, ma chi cacchio me ne frega di sta roba qua? Cioè, proprio, era repellente. No, a me mi fregava anche tanto, perché devo dire la verità, io ero comunque appassionato di queste cose, no? Cioè, per esempio, io ho scoperto a scuola un libro tipo Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, che poi negli anni magari me lo so riletto, per quanto tragico, drammatico e angosciante fosse Enrico Levi, tutta una serie di autori comunque legati anche alla storia, che era comunque compatibile con quello che tu andavi anche a studiare, cioè nel senso, a me piaceva, cioè nel senso, non è che piaceva, però quando la cosa diventava, cioè il leggere tutti i Promessi Sposi ogni settimana un capitolo fatto con la professoressa che ti rompeva i coglioni, era una palla, cioè nel senso, sì, perché poi gatti leggi sì, scritta, poi c'era quello che non sapeva leggere, quello che leggeva che non si capiva, quello che te piava per culo, quello che non si capiva, quelli che facevano le battute, cioè non, boh, sta cosa io non l'ho mai capita, proprio un metodo scolastico assolutamente inconcepibile. Roberto, che ne dici? Perché allora io adoro la Divina Commedia, ce l'ho adesso in tutte le forme, in tutte le critiche, in tutta la parte, sai che c'è tutta una teoria esoterica dietro Dante e tante altre cose che secondo me in parte, e almeno in parte, anche vera. Però hai ragione, cioè come nella grandissima maggioranza dei casi era insegnata, era assolutamente controproducente. Io ricordo che ce ne facevano imparare a memoria Bravo, bravo, esatto. Pezzi interi, lì per mesi va, è stato lente. E ce li ricordiamo ancora adesso. Ci ricordiamo ancora adesso, ma che non vuol dire assolutamente niente, che è uno sforzo inutile, mnemonico, sì, è vero. Fatto con ripetizioni che non, tra l'altro non ti insegnavano neanche come si potesse fare tutta una serie di cose, che era una immonda stupidaggine, non stronzata, questa è la verità. Cioè, quindi la vivevi anche male adesso che ci penso, perché in effetti secondo me lo sapevano anche gli insegnanti. Me l'hai ricordato. Era un metodo. Cioè, nel senso, non sapevano, ragazzi, manco che cavolo stavano. Io sono più malpensante, secondo me non sapevano manco che cavolo stavano dicendo. Loro stessi avevano una cultura essenzialmente nozionistica, almeno molti, e si limitavano a ripetere la storiella che avevano imparato senza metterci nulla. La Divina Commedia è una cosa incredibile. Io ancora adesso fatico a credere che l'abbia scritto una persona da sola, perché veramente ha una serie ma di magari gliel'hanno dettato agli alieni anche, che ne sai, cioè, e per cui però c'è stata venduta come questa cosa rompipalle di questo tizio, sì, che fa sto viaggio strano in una lingua strana, non si capisce niente, impara la memoria. Guarda, che secondo me non è neanche quello il problema, perché a me per esempio comunque quando ce la spiegavano il capitolo che dovevamo magari imparare, comunque a noi la comparazione, la traduzione, la spiegazione ce la facevano anche. Era il concetto di dover imparare a memoria un blocco che comunque era difficile, cioè nel senso anche linguisticamente era complicato, e tu la volta dopo stavi più con l'ansia del fatto che la dovevi sapere a memoria piuttosto che di aver capito quello che avevi studiato, capito? Questa era proprio metodologicamente una stronzata sta cosa, cioè, però poi ovviamente noi siamo andati avanti per 30 anni con questa storia di Dante Alighieri, che poi non so, mo sarà pure sparito dalle scuole probabilmente, perché chiaramente c'è ancora, spero che lo raccontino in modo diverso. Pensate che io ho un libro della Divina Commedia stampato in 999 copie, gigantesco, grosso come tutta sta scrivania, che mio padre comprò non so a quanti fottiglioni dei soldi, ed era una delle tante cose le quali mio padre ha speso inutilmente dei soldi, e che poi dopo mi sono andato a rivedere, insomma, ultimamente vedete, cioè, vediamo quanto ci faccio. Insomma, non è così rilevante. No, niente, no, però insomma non è così rilevante da giustificare il fatto di vendere una cosa che comunque c'ha anche un valore affettivo, no? Per certi versi, insomma. Comunque io sono dell'avviso di, come ha detto prima anche Davide, che dipende tutto dai professori che ti trovavi, nel certo. senso, forse è molto più difficile, penso, trovare un bravo professore di italiano piuttosto che uno bravo di matematica o di scienze, non so perché, però è ho questa impressione statistica, così semplicemente dai ricordi e dalle esperienze dei a compagni. Chi di voi a me quando io lesse, a parte l'immensa rottura di palle, mi sembrava una specie di ora di religione strana. Lì dipende molto dalla professoressa, sì, dal professore che avevi. Io purtroppo avevo la professoressa di italiano antipaticissima, cioè molto antipatica. No, ma io... E quindi ti facevo odiare un pochino la materia, non un pochino, facevo odiare parecchio. Io ero in una scuola già di diseredati, ero al Parco Nord di Cittisello Balsamo, era già una scuola del cazzo, detto così, in quei periodi, era aperta da poco e avrò cambiato 4 insegnanti di italiano durante l'anno, che resistevano pochi mesi, erano tutti abbastanza, quasi sempre dei supplenti, quindi come supplenti già non hanno neanche un'iniziativa di fare un piano di studio, vengono e dicono tanto sto qua 2 mesi, leggiamo. Ma al di là del piano di studio, Davide, secondo me non avevano una vaga idea di come si insegna a dei bambini. Beh, stiamo parlando già delle superiori. Sì, ecco. Sì, però insomma, non hanno la conoscenza pedagogica, esattamente. Non è la stessa cosa che fare una conferenza. Era solo per scaldare la sedia, esatto, e venire a passare il tempo. Vabbè, era quello perché... anche quello che abbiamo detto l'altra volta, cioè più o meno. Sì. Poi dopo non è una cosa che valeva per tutti, cioè nel senso non era una cosa assoluto, perché c'erano anche professori anche preparati dal punto di vista proprio dell'insegnamento, anche se poi dopo le modalità e le tecniche di insegnamento sono concetti che si sono sviluppati anche negli anni, nei decenni, quindi poi alla fine dopo la scuola da quel punto di vista è anche migliorata, grazie a Dio, forse, poi io non ci sono più andato e non lo posso dire, però ho questa percezione, insomma, diciamo così. Però ecco, diciamo che il problema era il fatto che certe materie erano complicate e pesanti già di per sé. Io mi ricordo alle medie io facevo latino, cioè per dirti, no? Eh sì, io l'ho fatto alle superiori. Latino. Ho studiato per 5 anni. Latino, ragazzi, se uno non ti spiega il perché e non ti instilla un po' la curiosità e non ne vedi proprio la ragione quando sei un ragazzino, perché stai a dire una lingua dei 2000 anni fa, ma a me che cazzo mi serve, no? Oggettivamente invece è importante, perché aiuta anche a comprendere, lo scopri dopo. Bravo, però se ci fosse stato qualcuno che te lo avesse spiegato invece di imparatevi la prima declinazione, imparate la seconda declinazione, cioè vaffanculo, no? Poi dopo è chiaro che le dovevi imparare, perché ci sta pure, non è che non le dovevi imparare, però dammi una motivazione, cioè incuriosisci. Per esempio, io ti faccio l'esempio di italiano. Io ho odiato italiano per tantissimi anni come materia di per sé stessa, perché ho avuto appunto sia le medie che le superiori delle professoresse non mi hanno per nulla fatto amare la materia. E poi è capitato che credo fosse la terza liceo, la professoressa per compito estivo ha dato un elenco di libri da comprare, da leggere, e io fino a quel momento praticamente leggevo solo fumetti, mi piaceva leggere fumetti, non libri, non ero un amante della letteratura intesa come libri eccetera, romanzi, e tra i vari libri c'era Il nome della rosa di Umberto Eco. Mamma mia. Io per caso scelsi Il nome della rosa di Umberto Eco. Pazzo, quello per me fu il cambiamento, nel senso che leggendo Umberto Eco, compianto Umberto grandissimo, e leggendo Il nome della rosa come libro, mi appassionai la lettura, cioè capisci che ero già grandicello, 16 o 17. Io me lo ricordo come se fosse adesso, perché fu il mio punto di svolta. Capì che in realtà dietro alla letteratura italiano, il latino, perché ce n'era tanto dentro Il nome della rosa, eccetera, era bello, c'era qualcosa di appassionante, di entusiasmante. Ma lo capì grazie a questo libro, non grazie ai miei professori miei insegnanti. Quelli me lo facevano odiare. Esatto. E invece lì capì che c'era qualcosa di bello. Umberto Eco è veramente complesso. Adesso, cioè, non tanto Il nome della rosa, se leggi Il pendolo di Foucault, è uno dei libri più complicati che esistano. Oppure mi sono appassionato grazie a lui, praticamente. Comunque fondamentale è anche il contesto sociale della scuola in sé, nel senso che la mia classe era veramente di brutta gente, brutti elementi, era veramente una brutta classe dove gli insegnanti anche più resilienti, resistenti, facevano talmente fatica che alla fine mollavano. Era impossibile riuscire a insegnare qualcosa a sta gente, per cui alla fine leggiamo questo, leggiamo quello, poi a fine anno sono cazzi vostri. Però è sempre un fallimento, cioè nel senso la scuola poi a un certo punto ti raccampa, però oggettivamente la funzione della scuola non è soltanto insegnarti delle materie, ma anche darti un supporto per comprendere le cose, per affrontare la vita, diciamo, cioè, dovrebbe aiutarti ad evolvere un po' da quello che è anche il tuo contesto, no? che è intorno. Però se tu ovviamente sei circondato dal tuo branco, rimarrai sempre nel contesto del tuo dovrebbe anche insegnarti ad imparare, che è una delle cose che non si fa, e non so se si fa nemmeno adesso. A chi di voi hanno insegnato come si fa a prendere appunti? A chi di voi hanno insegnato come si legge un libro? Si legge un libro non vuol dire che prendo il libro, parto dalla pagina 1, vado fino, tanto per dire, come si prendono appunti, come si memorizza, come si impara, come si ripete una certa cosa per memorizzarla. Sono tutte cose che non ti possono insegnare perché non lo sanno il 95% sì, probabilmente sì, anche se io devo dire la verità, non ho mai creduto alle tecniche, cioè d'apprendimento o di memorizzazione in generale, no, non magari che con questo, non tecniche avanzate, non voglio dire che alla fine non funzionino o non esistano, anzi proprio in generale il mio approccio che comunque è un po' più libero, ogni approccio è individuale, ogni approccio sicuramente è individuale, però ognuno trova il suo metodo per studiare. C'è chi studia col telefonino, con la musica, c'è chi studia leggendo un'altra roba, cioè sotto ognuno si trova la sua strada, però effettivamente un piccolo indizio iniziale, tipo quando leggete un libro sottolineate le parti che secondo voi sono più rilevanti, perché se dovete fare una rilettura fate praticamente un riassunto leggendo le vostre note di fianco, per esempio, no? È una nota, è un suggerimento che se tu lo cogli poi te lo fai tuo, sì. E te lo fai a modo tuo, e, però sono suggerimenti. In effetti non ti davano mai nessun tipo di suggerimento, perché è come per dire: io ho imparato a modo mio e me lo tengo per me, non lo so. E poi io ti dico: vabbè, leggi il libro. Al di là di questo, ci sono, indipendentemente poi dall'esperienza personale, dalla metodologia personale, esistono delle tecniche di studio, certo, delle tecniche di memorizzazione, eccetera. E come diceva Alberto, in effetti queste non sono insegnate, cioè io le ho scoperte poi con gli anni, ho scoperto che alcune le avevo scoperte da solo per caso, tra virgolette, leggendo poi dei libri che parlano di lettura veloce, di modalità di studio, di... sì sì, assolutamente. No scusa, non ridevo per te, ridevo perché mi è caduta l'occhio in chat, e Claudio ha detto che sostanzialmente l'Iliade era la versione 2000 anni indietro di Holly e Benji, non finiva mai, e mi è venuto da ridere, scusate, ma c'è senso, un genio, effettivamente non l'avevo mai vista da questo punto di vista, ma in realtà l'epica in realtà è il prototipo di tutta la letteratura fantasy che è venuta nei 2000 anni successivi, insomma. Vabbè, perché non hai parlato dell'Orlando Furioso, allora lì proprio sì che siamo sul fantasy dopo, non ti ricordi quando hai studiato poi l'Orlando Furioso e tutta l'epica ottocentesca? No, perché tu sei andato nella scuola figosa dei privati e hai studiato, io non l'ho neanche visto, non so neanche cosa fosse. No, io l'ho studiato, l'ho letto, e lì proprio stiamo parlando di fantasy vero e proprio, di quando va sulla luna a recuperare il senno perso nel... vabbè, dai, comunque per dire che in definitiva, comunque, a parte le tecniche che non insegnano, e sono d'accordo con quello che diceva Roberto, e ritornando a quello che dicevo prima, quando ho scoperto che era bello leggere i libri, mi sono reso conto in quel momento che non è la materia a essere brutta o bella, ma è chi te lo insegna che te la fa piacere o non piacere alla fine. No, quindi, no, è assolutamente così, certo, assolutamente. Sacrosanto. Solo che me ne sono reso conto che ormai quasi ero maggiorenne. Infatti io alle superiori a cagare di per se stesso. Infatti io alle superiori ho avuto un professore di italiano che è stato con noi soltanto un anno e mezzo, perché c'è stato un periodo in cui io andavo a una scuola privata, e quindi questo era un attore, doveva essere anche un attore abbastanza importante, a parte che era meraviglioso sentirlo parlare, cioè proprio il modo in cui modulava la voce, la profondità della voce stessa, il modo in cui parlava, la passione con cui lo faceva. E praticamente per qualche ragione la sua compagnia in quel momento era in grossa difficoltà, o insomma si era sciolta o qualcosa, e quindi praticamente lui aveva perso fondamentalmente il lavoro, perché la sua professione era quello di fare l'attore teatrale, e per un anno e mezzo lui ha insegnato a noi, e lo faceva con... non lo so, cioè, ma era un po' come avesse Baricco. Con la passione. Sì, è come avesse Baricco dentro la stanza che ti racconta le cose. Tu lo staresti ascoltando magari per ore, e quelle cose che lui dice comunque in qualche maniera ti entrano. Esortava tutti comunque, cioè, lui non interrogava, ad esempio, cioè, faceva questa conversazione sull'argomento della cioè lui diceva: studiate questa cosa, poi ne parliamo la prossima volta, no? Cioè, nel senso, ed era comunque affascinante come tipo di cosa, e vi dico che è stata un'esperienza veramente all'attimo fuggente, perché poi dopo lui ci disse che riprendeva il suo lavoro da attore, e che quindi a metà dell'anno successivo a un certo punto lui interrompe questo cammino con noi, no? Cioè, se ne andava, e in realtà mi ricordo che questa cosa fece scatenare il putiferio, perché noi andammo tutti a far presidio, praticamente a bussare incazzati dalla preside, perché eravamo convinti che invece lui ci raccontava la versione politicamente corretta del fatto che lui era stato mandato via perché inseriva idee sovversive all'interno. Come sì, sì, no? Perché poi noi oramai eravamo un po' fomentati anche dall'attimo fuggente stesso, no? Poi in realtà magari lui veramente era tornato a fare l'attore, no? Che era comunque la cosa che io mi ricordo l'ultima lezione di lui, veramente che lui pianse, no? Cioè, ma poi tu vedi un uomo adulto, grande, con questa voce profonda, questa immagine di sicurezza, questa capacità veramente di modulare il modo di parlare, che per me è stato una fonte di ispirazione per gli anni, cioè, perché poi dopo su quel modello io comunque magari ho costruito un mio piccolo cammino su tante altre cose, no? E insomma, vedere che poi alla fine c'era stata questa commozione, il fatto che lui aveva comunque creato un legame con noi, e questo per noi era importante, perché la maggior parte dei professori sono professori, cioè, che dal loro punto di vista ci può anche sta. Io non lo contesto neanche come tipo di approccio, perché è come di all'infermiere di affezionarsi a tutte le persone che gli passano all'ospedale, no? È inverosimile e distruttivo, chiaramente. Quindi è anche un approccio il fatto che tu vedi centinaia di ragazzi che negli anni passano e vanno e fanno la loro vita, quindi cioè, nel senso, non è necessario che tu devi creare un vincolo. Lui invece l'aveva fatto, c'era sta cosa che era speciale, che era particolare, e ancora oggi me lo ricordo, vedi, questo è un ricordo che è importante, e secondo me magari le persone come lui lo sanno che hanno lasciato sto segno dentro qualcuno, che magari hanno ispirato qualcuno, insomma, bella sta cosa. Ma magari lui pensa di aver fatto una cosa normale, in realtà, probabilmente. Non pensa di aver fatto una cosa speciale. No, non lo credo, sennò non ti metteresti, non ti commuoveresti a lasciare comunque un posto che potesse un posto di lavoro come un altro, cioè, capito? Secondo me lui lo sapeva comunque che aveva fatto, che aveva creato qualcosa in qualche maniera, ed era un po' la sua missione, la sua ispirazione era quella, insomma, dai. Ciao. Va bene. Direi di andare un po' veloce, perché sennò qui la storia direi che abbiamo finito praticamente. No, vabbè, un po' di aneddoti io li racconterei, anche se non molto impegnativi, dai. Vi racconto il mio subito. Non è il secondo punto, quello che stavi esaminando, che parlava dell'amico bocciato. Sì, che poi è più una cosa delle medie, più che delle superiori, sì. Quando conoscevi l'amico bocciato, e se diventavi amico dell'amico bocciato e diventavi un po' importante anche tu, no? Nel senso, alla fine c'era questa immagine un po' alla Capitan Harlock, no? Il mascalzone, quanto sei mascalzone, sei stato bocciato, tu sei amico del mascalzone, quindi sei un po' mascalzone pure tu, e quindi insomma sì, però vabbè, dai, questa era una cosa che l'ho messa così. E io invece volevo introdurre un argomento, vabbè, un po' collaterale, che sono le bigiate, ma in particolare un aneddoto, perché io, a differenza tua, non avevo dei genitori molto attenti a quello che facevo a scuola, in particolare mia mamma, che non era molto acculturata, e quindi insomma tu gli raccontavi quello che volevi e andava bene. Come è andata a scuola? Bene, tutto a posto, cioè, non stava neanche lì, non poteva controllare o verificare che io avessi fatto le cose giuste o meno, tantomeno mio padre, che era molto assente. E sicché è arrivato un giorno, stiamo parlando di prima superiore, dove per qualche motivo ci è stato dato un libretto delle assenze che andava portato a casa da firmare, per farlo firmare ai genitori, con l'autografo di riferimento, e poi c'erano tutti gli autografi che venivano poi fatti sul libretto. Beh, sì, sì, funzionava così, sì. I miei genitori, sicuro ancora oggi adesso non ci sono più, però non hanno mai saputo che esisteva un libretto delle giustifiche, e hanno sempre saputo che le giustifiche si scrivevano su diario, esattamente come le medie e le elementari. Quindi quando era un'assenza reale, loro mi scrivevano la giustificazione sul diario e io la rifacevo sul libretto delle assenze, perché la firma che ho fatto sul libretto era la mia ed è sempre stata la firma originale, perché firmavo sempre io al posto di mio padre e di mia madre. Quindi io ho fatto un barbatrucco, cioè non c'è da vantarsi ovviamente, però è un survival hacking anche quello, esatto. Sì, il libretto delle assenze non esisteva, non sapevano che esistesse, perché nessuno dei due ha fatto una scuola per la quale ha avuto a che fare con un libretto delle assenze, perché nessuno dei due ha superato la terza media dei miei genitori, e non lo sapevano, perché non esisteva. Per loro si faceva sul diario, io quando avevo un'assenza reale, loro compilavano sul diario, io facevo quella vera invece, e poi l'assenza me la gestivo io tranquillamente. Quindi ho avuto modo di fare delle bigiate in tranquillità. Potevo decidere quando poterle fare, come volevo e come non volevo, e me le gestivo bene. Poi dopo magari parliamo di dove, cosa facevamo quando bigiavamo, però intanto volevo raccontare questo aneddoto così, mio personale. è un hacking anche questo, sì. Diciamo, beh, sì. Diciamo ho giocato che... sull'ignoranza dei miei genitori, perché credo che pochi genitori potevano essere fregati a questo punto, perché parlavano con altri genitori o andavano o sapevano che c'erano il libretto delle assenze, perché magari avevano fatto anche loro le superiori, insomma. Ma in guarda, a me mi è capitato, per esempio, io c'avevo un mio amico che era infallibile a fare firme, quindi praticamente capitava che la faceva lui la firma sulle giustificazioni. L'ho fatto una volta sola, devo dire la verità, perché le altre volte bigiavo e non portavo le... cioè bigiavo, in realtà facevamo sega, noi si diceva così. Sì, esatto. E praticamente non portavo la giustificazione fino a che non si incazzavano, allora dovevo inventarmi qualcosa e magari... Però in generale comunque l'ho fatto una volta e mi sono sentito anche un po' in colpa. Però sì, insomma, comunque alla fine quando si faceva sega, si faceva sega. Poi qualcosa mi inventavo sempre, insomma, ma anche con mia madre. Anche se mia madre... invece a differenza, insomma, una persona molto istruita e non la inculavi, cioè questa è la cosa, esatto, bella. E quando, esatto, la, quando la inculavi è perché se, perché vabbè, cioè, vabbè stavolta era distratta, no, stavolta sti cazzi, cioè diceva vabbè chi se ne frega, ma non è che posso stare sempre, e quindi qualche volta mi assecondava anche, diciamo così, era un po' un modo di vedere le cose. Invece la cosa figa era quando tu ovviamente nell'ultimo anno delle superiori che acquisivi il la maggiore età, ovviamente te facevi le giustificazioni da solo, e quella era un po' come il voto, cioè come andare a votare per la prima volta. Secondo me quella era una delle grandi conquiste dell'essere maggiorenni, o perlomeno erano gli unici o i più evidenti simboli del fatto che tu eri diventato maggiorenne, se no altrimenti non te ne saresti neanche accorto, insomma, se non fosse per la festa del diciottesimo compleanno che io ho fatto. Dove avrei trovato un'altra che ti ha slinguazzato così a sorpresa senza che ne sei accorto? No, non ho trovato nessuno che mi ha slinguazzato. Però mi hanno regalato una bambola gonfiabile a miei 18 anni. Quindi, ecco, va bene. Io mi vergognavo ad andare a casa con sta cosa, invece mia madre quando l'ha vista ha riso. Ah, simpatici, è stato un bello scherzo. Oh, ma che cazzo dici? Io non l'avrei portata a casa, a dire la verità. Mia madre non l'avrebbe compresa. Io invece, come al solito, ero nel lager, quindi niente di tutto c'era possibile. Che bello, bello fare queste puntate con te, insomma, cioè, deve essere... parola, che allora, alle superiori, la scuola che ho fatto io, anch'io ero dei fratelli delle scuole cristiane, come si chiamano, fratelli delle scuole cristiane si chiamano, però da noi era l'inverso di quello che racconta Carlo. Davanti a me c'erano due ragazze estremamente disinibite che raccontavano cose assurde e ci facevano domande inverosimili che voi non credereste. Era veramente una cosa particolare. Però comunque le bigiate generalmente, vabbè, noi avevamo le bigiate, quelle proprio che decidevamo, pianificavamo e andavamo. Altre erano se ci dovevano interrogare, non sapevamo niente, ci ritrovavamo fuori, eravamo in 3 o 4 o 5, alla fine si partiva e si andava. Quelle organizzatissime invece quando c'era la fiera campionaria, quando c'erano le manifestazioni tipo la fiera, il SIM, Hi-Fi, che ci si andava la domenica e il sabato, ma era molto meglio andarci il mercoledì o il giovedì che non c'era nessuno o poca gente, no? Sarebbe stato molto meglio, esatto, se avessi potuto farlo. Sì. Se tu avessi potuto farlo, noi invece lo facevamo e andavamo in fiera campionaria, che so, il mercoledì, e ovviamente non c'era puttanaio che c'era la sabato e la domenica. Quindi facevamo delle belle bigiate organizzate, oppure in particolare quando non sapevamo bene le cose. E quindi niente, non so voi se organizzavate o capitava. E come si faceva? No? Io avevo l'autobus che mi veniva a prendere a casa, l'autobus della scuola col marchio fuori San Celso, Istituto San Celso, mi prendeva e entrava direttamente con l'autobus nel cortile della scuola e ci lasciava lì, ok? Quindi questa era la mia vita. E il bello è, c'era un braccio meccanico che ti prendeva e ti schiaffava dentro al pulmino e poi dal pulmino. Se uno stava assente, chiamavano a casa per dire come mai non è venuto. Come non è qualcuno venuto? Dice, ma perché te fai i cazzi tua? No, non funzionava così. Boh, ragazzi, siamo quasi a 2 ore di trasmissione e come al solito non abbiamo finito. È un po' complicata sta questione. Mo fare addirittura una terza parte è un po' complicato. No. Guarda, però secondo me, aspetta, sentite il mio suggerimento, poi mi dite che cosa ne pensate. Alcuni di questi singoli punti, alcuni, ad esempio l'autogestione, i picchetti, le questioni politiche relative alle scuole, secondo me meriterebbero una puntata proprio. Tutte cose perché... che ho sempre sentito raccontare dagli amici, ma io non l'ho mai saputo. Vabbè, tu sei stato uno sfigato, comunque, cioè, la tristezza. No, ragazzi, te l'ho detto, io ero in una scuola così, non ci potevo fare niente. E tu a un certo punto ti dovevi alzare, ti metti in piedi sul banco e dici, ma avete rotto i coglioni! Capito? Così devi fare. E se era religiosa pure una bestemmia, non ne avevo la consapevolezza, purtroppo le ho scoperte dopo queste cose. Bravo, bravo. Comunque, vabbè, non è mai troppo tardi, ricordatelo. Diciamo che una cosa però la dico al volo, che era sulle applicazioni tecniche. Applicazioni tecniche, okay. Tutti voi, tutti noi abbiamo fatto quel cubo di ferro malefico che bisognava limare all'inizio dell'anno e finire alla fine dell'anno. Assolutamente no. O solo io. Non so cosa sia, bro. Non so cosa stai dicendo. Ma solo io ho vissuto questo cubo di malefico. Cioè, l'applicazione tecnica, se andava in laboratorio, ci partiva con un pezzo di ferro grezzo e ci dicevano: dovete farlo 5x7x2 con la lima, con la lima bastarda prima, poi la lima quella più fine. No, poi non, so, di non so Roberto, sentiamo piatto. Roberto magari, ma io proprio non so proprio di che stai a parlare. Pezzi di legno no, facevamo dei puzzle con legno, delle cose strane. No, ferro, questo pezzi è ferro. Non me li ricordo assolutamente. Penso, allora eravamo solo noi, io ho fatto 2 anni a limare un cazzo di cubo. Ma tu, cazzo di tecniche. Tu hai costruito la Vergine di ferro e non lo sai, capito? No, è il cubo, era più simile alla come si chiama, quello di 2001 di Sena nello Spazio, il monolito. Il monolito, okay. In versione piccola, ecco, era quindi quello. Quindi non era un cubo. Quello, no, era un rettangolo, sostanzialmente era un affare rettangolare, un rettangolo. Comunque diciamo che mettevi due chiodi, facevi quello praticamente. Esatto. Più o meno. Esatto. Però quello è marrone, il di legno, invece questo qua era di ferro ed era nero, immagino, giusto? Ferro. Ma neanche lì nel lager c'erano le bombe? Mai una volta bombe a scuola e bisognava uscire tutti da scuola. Invece, pronto? Sono bomba, sono bomba. No, noi no, dicevano bomba a scuola, rimanete a scuola. Morite. Neanche con l'accento svedese. Niente, scavano. Ma zero. A me hanno messo anche le finte bombe, cioè con la tratta da scarpe con i fili che uscivano. Sì, sì, no, è vero, queste cose c'erano pure da noi, c'erano cose del genere. A parte vabbè, le chiamate, cioè, ragazzi, adesso tutti in ordine, uscite rapidamente dalla scuola, e facevano tutti in fila, andavamo, però cioè, c'è stato, poi dopo non te lo dicevano. Poi quando sei uscito dalla scuola, poi spargeva la voce che c'era stato l'allarme bomba. Che l'allarme bomba, secondo me, era la più bella tattica di quando c'era l'interrogazione. Qualcuno si inventava. Certo che sì. Devo dire che secondo me a un certo punto, la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la scuola ha detto: sì, allarme bomba, vabbè. Bombo. Sì, bomba. Non, sì, non sì. Vi so dire, ma non c'è mai stato. Quindi non so se non hanno mai dato retta alle telefonate anonime che dicevano, o se non ci sono mai state queste telefonate. Era anche pericoloso, perché in realtà, in teoria, cioè, anzi non in teoria, in quell'epoca la scuola, se riceveva una telefonata di minaccia o d'allarme, erano obbligati a fare uscire per motivi di sicurezza, anche se era procurato allarme, no? Infatti ecco perché c'è poi il reato di procurato allarme, perché comunque insomma, però vabbè, se vedete che non l'avete, da voi non c'era sta fantasia della bomba, non ci pensavo. No, almeno da proprio lager, proprio le mettevano direttamente le bombe. può essere. Io l'unico momento che mi ricordo che siamo stati a casa è stato per la nevicata del 85, quando è crollato il palazzetto dello sport di Milano. Allora ha chiuso tutto e siamo stati a casa una settimana, ma se no poi pensavo che avessero reclutato per andare a spalare la neve. esatto. Qua a casa, ma venite a spalare. Gli mettevano, gli cucivano sulle giacche, insomma, dei simboli che li identificavano come appartenenti al lager scolastico e via, insomma. Vabbò, ragazzi, sentite, ci sarebbe veramente tanto altro da dire, ma poi magari ne parleremo. La cosa bella è che, ovviamente, non avendo vissuto tutta questa bellezza da parte di Carlo Sant'Agostino, quando andremo la prossima, fra due o tre settimane, quando è, insomma, ad Avezzano a fare il nostro bellissimo documentario per archeologia informatica, noi ci faremo gli scherzi in albergo di notte, capito? Perché almeno così mi ricorderete queste cose. C'è una bomba fuori dall'albergo. C'è una bomba nella stanza di Sant'Agostino. Così evacuano solo lui, capito? Cioè, perché poi giustamente deve recuperare, lui deve recuperare tutto il tempo perso che non ha potuto vivere, e lo facciamo vivere noi di archeologia informatica. Va bene, ragazzi. Tu che vivi di archeologia informatica, che ancora devi fare il video. Io devo fare. Quello non è colpa mia, io il mio l'ho fatto. È colpa mia, però ecco, colgo l'occasione anche per ricordare che io questo weekend, sabato e domenica, sarò al festival di Bolzano, che si chiama Game Ground, con due conferenze, una sabato e una domenica. Quindi se qualcuno dei nostri ascoltatori si trova dalle parti di Bolzano, vuol fare una gita a Bolzano, c'è questo festival del videogioco che si chiama Game Ground, che è per tutta la città di Bolzano. Bello. In cui ci saranno esposizioni, conferenze, diversi personaggi. Io sarò in una conferenza sabato pomeriggio e un'altra domenica, dove parlerò di Warhol e Amiga, quindi riprendendo anche la puntata che abbiamo fatto in archeologia informatica e la ricerca, tutto rigorosamente in tedesco. No, infatti vedi, mi hai rovinato, perché volevo fare la domanda facendo la battuta, ma avrai anche l'omino che tradurrà tutto in lingua tedesca, perché giustamente se no non ti ascoltano. Non credo. Videogioken. Parlerò di archeologia informatica e di Runtime Radio, portando nuovi ascoltatori. Bravo, ascoltatori che poi ci blasteranno, perché non si capisce niente qua, queste post. Ma soprattutto lo farai se prima avrai fatto il video che... No, per questo ti sto dicendo che non riesco, che sto preparando. È una giustificazione, ho capito, ha messo le mani avanti. Ragazzi, abituato a queste cose, avendo fatto il lager, è già abituato. Ma almeno se tu mi mandassi il materiale del Brusaporto, ma queste sono tutte cose che noi stiamo dicendo in diretta, così ci frega un cazzo, non ci ascolta nessuno. Però se tu mi mandassi il materiale del Brusaporto, intanto ci porteremo avanti con il lavoro, insomma, quello volevo dire. Comunque, detto questo, ragazzi, quando eravamo futuro ritorna la prossima settimana con un argomento, dovrebbe essere l'argomento di Alex Raccuglia, quindi il primo ospite della nostra storia. Bisogna vedere un attimo come sta messo, perché ci ha avuto due settimane veramente intense, in più c'è stato in mezzo poi anche il raduno di Runtime, e più questa scorsa fine settimana abbiamo lavorato sul set di un videoclip nostro che insomma abbiamo fatto, quindi alla fine insomma sta abbastanza sbattuto, però insomma giovedì prossimo dovremmo arrivare con il primo ospite, il primo di due o tre ospiti che avremo durante questa stagione. Per il resto io insomma vi ricordo che se volete essere ospitati, se ci sono volontari che hanno idee, bravo, hai ragione, farvi avanti, hai ragione, telefonate a Roberto Carlo Comaiolo Santanzi al 347 96 dove sei 54 scrivete su Runtime Radio @gmail.com, Runtime Radio @gmail.com, dite io ho questo argomento qua, magari illustrateci l'argomento, se è compatibile, insomma ci potrebbe anche interessare insomma di fare questa puntata insieme a voi, vi invitiamo e cerchiamo poi di organizzarci. Detto questo io vi rimando a domani mattina dalle 7 alle 8 live, come al solito il mattino all'Oro in Podcast con Leo Varghion, dove ci farà una recensione di una serie o di un film, di qualcosa che ha visto recentemente. E sabato mattina invece vi ricordo che dalle 8:30 alle 9:30 sempre live io e Michela con Disordinati Informati faremo insomma una sorta di rassegna stampa delle cose che sono successe importanti di questa settimana, lei le notizie importanti, io parlerò di spazio come sempre. sempre, tutte notizie dallo spazio che poi dopo lei non gliene frega niente, quindi non ci ascolta. E in teoria domani sera alle 11.30 o alle 11, perché dobbiamo decidere il nuovo orario, torna insomma Runtime by Night, quindi anche voi, chi vuole di voi partecipare, insomma, è il benvenuto. Tanto sapete, si fanno domande intime, personali, e si racconta di quella volta lì in cui vi siete cagati sotto involontariamente, insomma, che è sempre una cosa divertente. www.runtimeradio.it, andate sul nostro sito per ascoltare, ovviamente c'è il player e tutto quanto, c'è anche il pulsante Anche Io, dove potete tranquillamente andare insomma a dare un supporto a Runtime, che ultimamente sta veramente amplificando i suoi sforzi, soprattutto dal punto di vista live. Ribadisco, 12 ore di live la settimana non sono assolutamente poche, considerando che una volta facevamo soltanto una diretta al giorno nei momenti più drammatici, diciamo così. E detto questo, io ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino, che sta già dormendo. Grazie a tutti, sì, sono un po' cotto stasera, sì, devo dire la verità. Ti sentiamo. Cioè, tu, no, perché tu sei partito bene, presidente. Tu sei partito bene, ti sei divertito, poi piano piano hai cominciato, capito, è finito il diesel. E cala la palpebra. Cala la palpebra. Ringrazio e saluto Davide Gatti. Saluti a tutti, dai, cerchiamo di velocizzare la cosa e ci risentiamo al prossimo appuntamento. Esatto, ringraziamola così. Ringrazio e saluto anche ovviamente Roberto Tomaiuolo. Grazie a tutti voi ancora una volta per averci supportato e sopportato. Bene, bene, sono sempre belle cose. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte, ciao.